momenti e non si vede neanche un cazzo, perché non succede niente, se non si è fatto promozione, che fa di come fa cuore, e poi gli deve stare, ci prendono in mezzo, e poi di nuovo pensare ai tavoli che tu non la fare per forza. E poi c'era fatto gli stati e che tutti da un buon giorno quando aveva fatto l'aggiornamento, faceva avere un automatico, come è stato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eccetera, eccetera, poi ci mettevano tutti i canali per dire per lavoro, eccetera, eccetera. E non si sarebbe incasinato, invece stanno sempre spostando, stanno. Sì. E il fatto che lo fanno loro, poi si possono programmare loro i canali, capito? Perché basta che lo cambino, quindi tocca rifare tutta la sintonizzazione da capo. È un macello. Io vedo se ve ne aggiungo un'altra, perché dove c'era 5, 3, 4, 15, lo trovano tutti i canali di Ubi, sempre della Fininvest, hai capito? Ma magari l'affittano per la festa e ci aggiungo qualcos'altro. Cioè, sempre che aggiornando, sempre cambiando le cose. Una rottura è perché è rottura questa cosa. Hanno fatto veramente una volta per tutte, lasciarlo così e boom, basta. No, invece no, intanto si scoprono, chi sparisce, chi vi appare. E poi chiaramente se ti chiamano per fare un intervento cioè qualcosa, una cosa lo puoi fare anche gratis, una seconda volta. Sì, ma quando ho fatto vedere, che è passato l'antenna, che è fatto l'installazione, che è fatto la ricerca, poi quando ti richiamano non è che puoi chiedere sempre 10-20 euro, no? E poi non ti chiama di più. Capito? È un'altra più che altro, un'altra bella, non per i giovani, per gli anziani che non tendono sempre il circuito acceso, perché non lo spendono mai, capito? Beh, oramai, è l'unica compagnia che hanno. Cosa fanno? Una volta che era in paese si metteva fuori dalla porta, no? Faceva chiacchierata, ma se sono in condominio cosa fanno? Non c'era nessuno. Ma è che vedremo che ci vuole la carta per i programmi, non è che vedremo a quello. Usciranno i ricevitori, se tu paghi le camere, inserisci la carta e vedi i programmi, solo un accidente che funziona il ricevitore, non è che faranno quello, perché nessuno paga il canone, quindi in automatico vedrai se vuoi vedere tutti i canali, trovando il ricevitore che ci dice come di scrivere la porta, se si libera la carta vedete in chiaro, se non si libera la carta un tubo vedete, ma con calare. Sì, ce l'ho pensato anche io, una ragione, però il problema è poi chi c'ha dietro, che oramai la gente c'ha il televisore in camera da letto, in cosa, lì, in salone, e quante carte devi dare, poi magari uno dice che ne ha 5, ne ha 5 e se lo vende, le fanno tutte a cazzo, no? Sì, vanno le carte di subordinato per chi fa il pagacano, vanno così scaricato, non è che non ti dia le studi a tutti, perché ti è preoccupato per incassare. Tu vedrai che farà così, uscirà la regione la scritta, se eliminato dai 1, dai 2, dai 3, si vedrà solamente canale 5, dai 1, dai 3, 4, dai 7 e tutti gli altri. Tutti quelli della RAI spariranno. Solo quelli della RAI quando ci sono le partite con la regione, che tutti si fissano per le partite, eccetera, e per il film ci verrà la carta. Un abbonamento, quando paghi l'abbonamento ti danno per 5-6 carte, ma il televisore c'ha lei signora, non 4, e ti danno 4 carte, e ogni anno scadono, capito? Quindi dovete sempre venire a rivedere, ne fanno uno per il nuovo, ripagare, e tramite il telefono come se faceva con film che ti tornano lì quasi mezz'ora, e la di tutti altri, ti faranno la riprogrammazione della scheda. Sembra che è tutto un chiaro, non è che vedremo a quello. Prima a tutti, comunque già l'hanno provato la settimana, adesso ci abolzono anche le feste, tutte le feste intermedie, no? Praticamente non esisteranno più stato il sabato la domenica, cioè o solo la domenica come questi. Se così pensiamo di risolvere il problema. secondo me li aumentano, già non ce n'è lavoro perché non c'è da lavorare, e questi si fanno andare anche la domenica, magari il sabato, per fare cose. Sì, diciamo che c'è già con l'intenzione di far lavorare anche sabato e domenica. In pratica uno deve lavorare a vita, quando va in pensione ci viene il più morto del vivo, praticamente. Quando arriva la pensione deve durare massimo 5 anni, così almeno lo Stato non paga. Sì, secondo loro possibilmente devi piattare il giorno dopo che te ne vai. Sì, e noi vediamo a questo, non è che viviamo a questo. Capito? Tanto c'è gente così che quando va in pensione, se non c'è qualcos'altro da fare, comincia a non sapere da fare, si annoia, e invece va al circolo per dire vede qualcosa, si fa la fatica a carte, eccetera, eccetera. E lo fatto che speriamo che torni subito, almeno non paghiamo la pensione. A te molto te ne manca. A me, questa è la mia pensione, non è la pensione io. Io per andare in pensione dovrei trovare il lavoro adesso e andare via a 76 anni. Ora sono tutto rincoglionito, sarò già più, sarò morto senz'altro, non rincoglionito. Vabbè, è un po' la situazione di tutti, perché tanto tu considera, prima sono andato a 65, adesso quant'è, ogni due anni che passano sono non so quanto in più, quindi calcolati già come andate in pensione a 67 anni, ma siccome è molto difficile raggiungere i contributi, fai pure 70, praticamente tenendo presente che la media di vita ormai dovrebbe essere intorno per l'uomo intorno ai 72-75 anni, ti voli 2-3 anni di pensione, sì, ma è così, io per ho con 15 anni di contributi in pratica, perché ci sono 12 anni di là con Uruguay e sono riuscito ad avere, più ci sono altri 2 anni mi sembra di cosa, quindi devo farne altri, arrivare a 35 ce ne voglio altri 20, e ora te. Sì, ma infatti sono tutti così oramai. Oramai andare in pensione significa essere veramente zitti, zitti, zitti. Dobbiamo essere tra i più, tra quelli che vanno più tardi in pensione d'Europa, da quelli che ci andavano prima siamo andati, da quelli che ci vanno per ultimi. Come fa un muratore quando va a 65 anni che vanno in palcatura e tutto quanto rincoglionito, hanno parlato da Roberto con l'impalcatura, no, eppure è un lavoro brutto quello, perché te ne fai scendere la mappa, quando sei giovane non senti nulla, ma quando cominci ad avere 60 anni il braccio non funziona più bene, le gambe altrettanto, quindi a salire un'impalcatura per calcinare il cemento e roba del genere, ma mica ci hanno già pensato, quel problema l'hanno risolto. Rimane lì, l'impalcatura, se scende il cane, pazienza, sono risparmiato, così stipendio la pensione. E come c'è il vero? Non caggi, hanno spiegato la pensione del corso, del stipendio, e si è il vero. A questo suo ne sono un altro, come i macchinari ci fanno a noi. Una volta che non servono più ci buttano e prendono un altro, l'ho pinato il culo per altri 60 anni e quella che quello offerta, quindi noi diamo la mangiare allo Stato e lo Stato a noi non ci dà nulla. Appunto, ma hai visto che tanto loro campano a 90, 95 anni e magari sono in pensione da quando avevano 50. Fanno un paio di legislature e se ne fregano. E così. E poi bisogna stare attenti anche a non finire in ospedale, perché se c'è una certa età si fanno pochi e quindi risparmiano anche su quelli. Se quello è vero, l'unica cosa è fare come ha fatto la Minetti, che mancano pochi mesi adesso, a ottobre finisce 2 anni, 6 mesi e un giorno, pensione vitalizia, si è parlato con la mia pensione con 10-20 mila euro a faccia nostra. Così si fa, visto. E chiamava la scema. Ma il consigliere regionale farsi battare, prendere per il culo a tutti, e una volta che sei dentro della cadrea, fatti due anni e 6 mesi e un giorno, se lei è in pensione rimane tutto a cagare davanti. E così è. Ma speriamo di cavarcela, proprio sì. Speriamo almeno di cavarcela, in qualche modo. Se dovessero fare qualcosa delle firme per diminuire il stipendio anche a loro, vedrà che li vengono i cussi. Più di uno del vero che si rimette, se va in pensione prima di tutto si la mette in culo lo stesso a noi. Capito? Dice tanto a fare il consigliere, me l'ha fatto in un gabbio, a stare in un partito altrettanto, me ne vale pensione, ma lo tutti quanti a cagare. Mi dici mi dai al mese ce l'ho di pensione, non so come li tocchi, no? Dice. Guarda, tanto anche se vince, questi signori sanno già la soluzione, perché dicono che allora aboliamo questa indennità. L'indomani dicono mettiamo allora la postulazione in qualche modo, chiamiamola il contributo, istituiamo un contributo per poter venire qua. E non cambia niente, le cambiano il nome e si fregano. Ecco, è vero. Già, lo trovano il verso giusto per fregare a noi. In certo, come lui ci servono tutte per loro, quindi. Come conviene a loro. Noi, aia. E siamo andati bene già. È tutta gente navigata, così che li freghiamo. E gente attaccata con doppio bullone, saldatura e colla. Non hai sentito che hanno speso milioni di euro con colla? Ma cosa credi che ce l'ha servato a colla al pallone? Hai tu l'altro vestito? Sì, ho sentito. Io non so come noi purtroppo. Ma con la rivoluzione possiamo fare, intanto a questi non ci ritorni nessuno dalla controlla. Dobbiamo sperare nella selezione naturale, nella di natura, però mi pare che quelle siano prima a noi che a loro, dato che questa gente è anche molto longeva, purtroppo. Vabbè. Ne abbiamo pochi fatti, mi pare che una cinquantina, aiutati. Più partiti che auto ormai. Sì, per carità, fanno venire il malumore di tutti. Questi sì che sono parassissimi, veramente alla grande. E non te li so di rosso, neanche un DPT. Va bene, Ali, ti saluto, provo a salire un po', ma siamo di sotto, però ci trovo il posto. Vediamo un po'. Se no, anche io me ne vado a guardare la TV, ho fatto la cosa migliore. D'accordo, Rosa. Ci sentiamo, stammi bene. Alle prossime, a risentirci. Avanti, Anto. Ciao, pompo, buonasera. Buonasera, Antonio. Hai sentito? Ho sentito anche a te, pompo. Sono la sedia, mi chiedo. E allora, come va? Bene, bene, va tutto bene. Allora, io ho scoperto una cosa, pompo. L'ho scoperto? Mio baracchino, non questo, l'altro. C'è il canale GPS, c'è. Canale GPS? Cosa del genere. C'è praticamente, c'è il canale così. Praticamente noi siamo su 14, giusto? Inserisci questo cazzo di coso inserisci, tu c'hai il paracchino uguale al mio e mi senti perfettamente, io sento te perfettamente. Quell'altro che ascolta mi sente perfettamente, però cosa succede? Che va a modulare, fa, se non c'ha questo, se non inserisce questo coso, fa modulare no, e non, e tu non lo senti, hai capito? Allora l'ho saputo oggi. Sarà il coso, sarà la, non il GPS, il, ma adesso non mi ricordo come si chiama, lo scramble. No, non è esattamente così. Cioè, non so se sia così e cosa, però questa cosa è una buona cosa, perché io se trovo un amico che ha il paracchino uguale al mio, gli dico di passare lì, per esempio quella cosa, certe rotture di palle, capito, le risparmiamo, capito, questi tronti mettono le portanti e cosa, sarebbe un'ultima cosa, sarebbe. Ho capito, come tipo come le, i portati di TMR, perché se vuoi passare da un canale normale all'altro basta che inserisci il coso, allora parlate solo in due oppure in tre, quanti siete, se avete lo stesso apparecchio è lo stesso tipo di coso, perché il mezzo canale rimane là, in pratica vi sentite solo voi. Praticamente non senti chi fa una frequenza in più, non so che cazzo fa, è regolare, omologato, regolare, ciò che si possono usare, cazzo, devo leggere le istruzioni dell'apparecchio, quello lo fanno molti apparecchi moderni, lo stanno facendo, praticamente cazzo metti quest'altra cosa in più, metti e si fa così, praticamente chi tu ti intende, ma pure ci si può acciamare e cosa tu non senti a lui, hai capito? Sì, già capito, ha già compreso, già va bene, quando è così già va bene. E comunque è una cosa buona, farsi un pochettino furbi, solo che non tutti ce l'hanno, cose del genere. Sarebbe una cosa buona anche per debellare un po' di questi, babbagioni che mettono le portanti. Sì, vabbè, sicuramente questo non ce ne sono più, evidentemente è salito il vizietto di mettere le portanti. Quando muove la portante si gioca con la macchietta, la pipì. Appunto per quello. E se non lo sai, perché ce ne sono, arriva fino a 30 in più, cosa ne so, arriva appuntamento a 30 in più, arriva, se non lo sai dov'è esattamente, è un casino trovarlo pure, hai capito? Perché con quello che parli tu lo sa perché parli tu, però se uno non lo sa dove trovarti, anche se ce lo dovesse avere, è un casino a ciapparti, bisogna vedere se ne comprende pure dove trovarti, hai capito? Deve conoscere l'apparecchio, se c'è le istruzioni che lo legge, ma siccome la faccio parte delle persone, vado a prendere una malattia, ma copia di battuta in mano. Non legge per niente, qui si accende e va nel canale dove deve andare e basta. Siamo nell'era della tecnologia, siamo. Sarebbe un pochettino a farla un pochettino rimanere, un pochettino di queste cose, almeno debelliamo un po' di stronze. Carica di tuciu cuciu. Ciao Bomboli, Marco. Ciao Antone. Ciao Marco, saluto, l'hai sentito. E allora? perché sono tutti dolori alle gambe, al petto e dietro, al petto freddo. E quindi sento a casa, rispettivamente per comprare qualcosa da mangiare, boh. Sono andato a casa, era un ghiaccio da qualche supermercato. Quando sono fuori ci sono 35 gradi, ovviamente ce ne sono meno di 10, ci sono 5-6 gradi all'interno, quindi come esci, tutto dove esci, sembra diventare una cella frigorifera. Non ne hanno criteri, non ne hanno proprio criteri. Magari fuori ci sono 40 gradi, entro 10 sono 10 gradi, ma avanti sono, avanti può morire. Scappa, alleluia. Come se abbia tra le segni, sì, Marco. No, negativo, a casa. A casa, sì. E che antenna c'hai? Antenna da barra mobile, 1,60 m. Onda geomagnetica sulla stufa. E con questo baracchino non innesca, perché ha solo 5 bar. Comprelo da 8-10 bar, innesca, non posso usare. C'è una base magnetica così attaccata. Cappa. Dove abiti? Via Nizza. Via del Trento, sai dov'è? In alto. Certo, lo so dov'è. Chiediamelo per via del Trento. È perché mi chiamo Bombolo, secondo te. Perché avete una sede lì anche? Vostra? Non è nostra, però giro dappertutto, giro. Secondo te perché mi chiamo Bombolo? Perché porto le bombole? E quindi via del Trento lo so. Ok, però è un po' fuori zona, no, rispetto a te. Perché qua abbiamo il bombolaio via del Trento, proprio dietro l'angolo. Ma c'è possibilità di accedere al tetto? Se ho possibilità io di accedere al tetto, sì, sì. L'amministratore mi dà la chiave senza problemi e il proprietario del terrazzo ha detto di piazzare l'antenna quando voglio. Adesso così, provvisoriamente, per sentirti decentemente, ti consiglio di montarti, per non fare grosse spese, un attorno 27. La conosci? Una, ripeti. Torno 27, quella midrand, è alta 1 metro, un'antenna da balcone va bene anche per il tetto, è capito, e dico che c'è abbastanza bene, la metti sul tetto, la metti, per il momento va, poi quando sarà metterà un'antenna più grande. Il bomboli, io la Storm 27 l'ho provata giusto per togliermi lo spizio, ma il mio carico fittizio praticamente rendeva molto molto molto meno dell'antenna da macchina. E poi ho già la Ringo da 5,5 metri, quasi 5 metri là, e metterò quella, non c'è paragone. Ah, come non rende, cazzo, ce l'ho io e funziona benissimo. Non l'hai provata a mettere sul tetto? No, non fa a mettere quella, assolutamente. Vale più il cavo, 10 volte tanto il cavo che l'antenna. Poi va messa in zona aperta, cioè il terrazzo perdi già col cavo, figurati con l'antenna. No, no, non è da mettere assolutamente, l'ho provato, tra l'altro l'ho, non so dove sia, forse l'ho anche buttato. No, guarda che io l'ho montata. Anche nel deposito dove sono io, cazzo, a Luigi Vulcano, cazzo, l'ho sentito la cosa, da Ardara l'ho sentito, si può immaginare, ed è montata liberamente, montata proprio, quello che sento io, cioè, il segnale più basso, giustamente, perché non è una Mantova, il segnale più basso, quello che sento io, sente anche Pomponio. E senti anche Claudio in quella zona. Ti puoi immaginare, io l'ho provata lì, cazzo, e ti dico che fa. Altro che no, Però Bomboli, tu qua arrivi Santiago 5 e mezzo. se tu ti metti l'antenna sul tetto, anche la Ringo, tu arrivi 9.10, 9.20 come Antonello. Certo che arrivo così. Chiappa. Comunque io l'avrei fatta quella prova. Questo fa come metti un pezzo di palo, metti, cioè non a me hai il capo. Capo. 20, quanti metri di capo ci vuole? Una ventina di metri. Cazzo, l'avrei messo una ventina di metri di capo, avrei provato così. Sono sicuro che funziona bene. Meglio di quella cosa che hai nel balcone qua. No, non è nel balcone, è dentro la camera, dietro la finestra. Riprendi un bubone. Un dubbio non ti fanno, no, non lo metto in dito io, non lo puoi mettere dove la metti tu lì, non c'è anche da zino, che ci sia qualcosa per tendere. Sì, ce l'abbiamo, portiamo l'acciaio di coperto in plastica, però no, non ne voglio mettere la faccia avanti. Questa va bene perché la stazione è basso, a due, cioè relativamente, ma tanto c'è l'accordatore, io adesso ho 1-1, ci muovo in mezzo. Sì, verrà il tempo settembre-ottobre, piacerà la verticale, non perché adesso sono senza soldi e quindi il tavolo non me lo posso comprare. Qua ce ne vogliono almeno 40 metri, forse anche 44, forse anche 48, non si sa, devo misurare bene. Io devo fare tutto il tempo per poter parlare, non ci vuole molto a farlo, non li posso orizzontare, sono 5 minuti a farlo con cavolette. Adesso vi sono tenuto io e parlare tranquillamente con quello che posso fare senza usare la magnetica. Ma sai cos'è? Tu mi ascolti, persino un bombolino mi ascolta la tua voce, e che problema c'è? Vabbè, quello sì. Vabbè. Cosa potete dimenticarmi? Scappa, però il capo lo può usare. Io dico che provvisoriamente io sono convinto che c'è bene. Da quella zona, perché il capo quello può sempre utilizzare anche per la Ringo. Io l'avrei messo i 40 metri di capo, avrei messo quella lì provvisoriamente, cazzo ce l'aveva capito in laboratorio, o se no che ci sentiva, con quella lì provvisoriamente, poi ci ha piazzato la Mini Grand Prix, andava, quanto è quella lì, cazzo c'era 40 metri di capo, ci ha messo lassù, già l'hai visto quanto è alto quel palazzo, comunque. Eppure andati a botte, quindi tutta quanta la città la sentite bene. Ma con la zona esce bene, mi sono detto, lì esce bene anche con l'antenna di macchina. Io ho iniziato a fare la barattina, uscivo con l'antenna di macchina attaccata alla finestra, figurati. E mi sentivano tutti, poi ancora prima di quella c'avevo l'antenna pipetta attaccata alla barattina e parlavo con il settore con tranquillo da via del sito. A tutti chi, ma dove vuoi arrivare? Perché c'è uno vicino all'altro, ma poi non arrivi neanche alla Landriga. Ciao, Barrando. A parlare con tutto il resto della Sardegna, non solo con quelli che è vicino. Buonasera a tutti, vi sto ascoltando. Ciao, Marco. Ciao, Claudio, ben sentito. E qua ho trovato una via di mezzo, praticamente con 10 watt dell'altro apparato in mia scala. Questo ne ha 5, l'ha 48 e non innesca. Io ho l'antenna sulla cuffia, fianco alla finestra qua. E di essere quando le porte facci sentire, va bene, proseguite, vi sto ascoltando. Vabbè, non tutti hanno la possibilità per parlare con me da Sardegna. Ognuno va secondo le sue possibilità. Io purtroppo ho queste condizioni, se no non avevo usato così. E tu per l'antenna che c'hai fai anche troppo, è un riferimento generale, che non bisogna solo pensare a parlare con Sassari, bisogna pensare che se uno ha la possibilità deve parlare con tutti, non solo con Sassari, questo è il concetto, quindi non è che è riferito a te, per carità, è riferito in generale, tutto qui. Va bene, dai, vi ascolto, non vi voglio parlare. Ciao a tutti. Ardara era. Ardara? Ma dici chi? Si Vulcano. La vogliono quando? L'altro giorno, quando stavi parlando, ti ho chiamato col portatile. Non lo ricordo, e comunque era... c'era abbastanza distante. Mi sembra che mi ha detto a... no, forse a Corso, come cazzo si chiama, adesso non mi ricordo, comunque era un bel lontano era. Beh, tu lo sentivi da casa, io lo sentivo lì in deposito. E perché ero col portatile? Se ti davo il PL in macchina, a casa mi ascoltava pure. Ah, Silico, capo, adesso mi è venuto in mente. Era Silico Luigi. Io lo sentivo bene, ma bene veramente, da Silico a lì, eh. Non avevo nessun problema. Io lo so, ma stasera ero nei canali alti con Bonnannaro. Arriva benissimo anche Bonnannaro, non ci sono problemi. Vabbè, l'altra volta l'ho sentito che era fuori latte, non dici qui. Vabbè, ma non è quello il problema, io sono qua e gli altri sono dove sono, quindi ognuno ha le sue capacità e le sue zone. Io non ho difficoltà a ascoltare nessuno, però tu per quello che hai fai anche troppe cose, quindi va bene così. Vabbè, dai, vi ascolto e ne mando il QRX, sto soltanto una chiamata nei canali alti e poi mi sposto. Gappa, dai, là. C'è conversazione, mi dice, lì capo c'è da divertirsene, capo. In deposito, capo. E perché non c'è il tempo, se no me lo divertito forte. Ok, avanti, un po'. Sì, piacere il tempo, io cioè, sì, ma che ti chiamano ogni due minuti, non lì a portare la bomba. Stavo fermo anche 10-20 minuti di lì. Sì, ti ha detto Claudio un giorno, mettiti una bella antenna come si deve, vedrai ti diverti da lì a parlare, parlerai con tutta con Metro Sardegna da lì, figurati, quello è un buon punto. Ma partendo da Vizzeggio al arrivare via Milano e via Zero è il punto numero che c'è per parlare con Centro Sardegna, tranquillo e beato. Lì tu con una bella. Un amante della mia 27 stelle, quello c'è con un palo nuba, ti passa la mano, si mette un palo, sempre che ti diverti, di extra che ti fai, e poi sempre di volte due ti puoi fare, se no, anche per troppo fare, quando si facevano in questi lavori notturni, si parlava con Zieri, Bosa, Bono, eccetera, eccetera, adesso ormai poca gente c'è di giù, capito? E beh che cioè, non me ne voglio portare cose, cazzo, però sono convinto, io ho la convinzione, se ho la digestione posso anche trasmettere, posso. Sono convinto, se mi porto l'alimentatore, uno di quei apparecchi modificati, un B300, sono convinto adesso che arrivo un bel forte. Cioè, arrivo da tutte le parti da lì, pure con chi sono rotto di copo, Romeo. Sono convinto che riesca a farla rendere al massimo. Arrivo, mi sento là per tutto, non ho problemi. Adesso lì se ti metti la B27L, i 21 piedi li rifletti, te lo sto dicendo. E poi parli di giù con la Spagna come se fossi parlando col telefono. Capito? Se mi vengono le dettate. Avanti Marco. Sì, ma la fanno sempre la BA27. Poi viene chiamata NG5 Ottavi adesso. La Midland sta c'è in mano, capito? Quella che c'ho io, questo è lui in pratica, M. Ma tu hai la NG della CT allora? 5 ottavi o mezzo? 5 ottavi. A 3 radiali sono, se hai antenne vicino ti volano qui in posizione strategica. Io lunga non ne volevo perché non voglio mettere né tiranti né niente, non mi voglio allargare troppo, capito? È già che metto l'antenna in baracchino, poi si lamenteranno che di tutto. dicono che c'è tipo AI, che figlio sente male, che ho spostato l'orbita terrestre con le onde radio. Guarda che quella che ho io pesa mezzo chilo, io lo sono andato a mano a me. C'era Giuseppe l'altra volta è rimasto secco, diceva come è fatto a salvare il metro di palo telescopico con la D27L, certo, guarda che pesa mezzo chilo questa antenna, la potrei contemporaneamente con la mano e con la travitti. È ben leggera come antenna, a battuta c'è 7,50 con la 3, però è molto leggera, la mappa una cosa leggera non la puoi fare, perché se non imparo con la mappa come ho fatto io un giorno al centro storico, un cazzo da faccio pensare che balla da solo, ci vuole da due persone, ci vuole, ma per forza, per fare autorità da 4 metri telescopico in agganciato, se io è tutto che ho già preso la 3 kg io, quell'antenna più palo, e so se chi è un casino, invece la per 27 le da solo me la sono piazzata. È molto leggera come antenna, e poi c'è da vedere i colpi da 1,10 m, 1,20 m, già ti faccio vedere i radiali, ce li ho qui io, l'originale. Come antenna ti va bene, leggera, non solo trovi una lingua, come vuoi tu, la realtà non te la consiglio perché disturba, in mezzo alle antenne TV. Quindi con un palo telescopico al limite ti piazzi da soli di 4 metri e... E beh, ti piacere anche per i tocci dove avete tu già zona alta lì. Sì, ma io ce l'ho già la ringo, l'ho presa a fusare. Ho provato con un metro di palo a tararla. Praticamente lo stilo, solo lo stilo, cioè dall'isolatore alla punta, quindi escluso il tubo di sotto, no? Da quel pezzo dove attacchi la staffa, l'ho regolato a 4,76 m. Questo perché? Perché la LEM ha cambiato il progetto, anziché farla da 5,50 con spirale corta, quindi con un diametro più stretto, ha allungato la spirale e lo stilo è più basso. È un casino a tarare per quello, prima avevi le misure giuste, capito? Adesso devi trovare anche lo stilo approssimativamente. E ho capito. Quindi se io prendo la mappa e ne stacco il controcircuito che c'è in basso e rilascio quella bobina che c'è della mappa, la faccio 4 metri come hai detto tu, mi faccio una bella ringo e mi costruisco. Anche perché non gli hanno fatto alcun riferimento per la lunghezza dello stilo, non ha nessun segno né niente, te lo devi fare a occhio, anche se tu mi hai detto che la spirale, quello che non ha lo stilo recupera la spirale, sì, però entro certi limiti deve avere un certo range di lunghezza lo stilo. Qualcuno invece l'ha fatta funzionare accorciandola dall'inizio, in totale praticamente l'ha accorciata di 40 cm facendo scorrere gli elementi, quindi lo stilo l'ha fatto lungo 4,56 m, esclusa la parte di sotto, quindi se tu aggiungi 4,56 m, 24 cm di cosa, quel tubo alla base, sono 4,80 m giusti in sé. Non capisco. Io penso che si possa fare. Io ho quella manto qua. Scusate, gli elementi mi sembra sono lunghi un metro qualche cosa, se vuoi tutti gli elementi su 5-6 elementi sono 7,40 m, se la faccio 4 metri, e mi tengo la bobina, la salgo e la scendo. E vedrà che scappami la ringo più grossa. Oh, è più grossa. Come piace a me, caro. Dire queste cose. Comunque, quell'antenna lì è leggerissima, in effetti, ovviamente renderà meno. Poi hanno detto una cosa, se tu la piatti su un palo di 6 metri, che sia 5-6 metri sulla mezz'onda, ti abbassa anche l'angolo di radiazione, ne rende quasi come la 5 ottavi, non come la 5 ottavi, ma quasi, ti abbassa l'angolo di radiazione. Vabbè, se non metti i radiali è stata cosa, aggiungi i radiali sotto, e beh che ce n'è. No, se metti i radiali introduci un sacco di lobi parassiti nella lobo di radiazione. fumo delle sue radiali, questa già gli esce bene, a quanto sembra. Ho sentito anche in preparazione una lingua, quei tre radiali di Gran Prix, no, tre radiali da un metro qualcosa che avevo messo. Ho detto che andava, fate il tubo, a quanto pare si può purificare la lingua, perché non dice radiali, non so a distanza ne abbiamo messi dalla bobina, ma questo non posso dire. Sì, mi pare che l'avesse fatto anche Antonio, che non è più entrato però. Se non glielo avrei chiesto. Ah, ti volevo dire, guarda che quella volta che ti ho detto di quelle bande CB inglesi a 903 MHz, ho sbagliato io. Allora, in Giappone la banda CB avevano anche la 27, però avevano anche l'altra banda. In Giappone 903 MHz, in Inghilterra 934 MHz, e poi ho scoperto che ce l'avevano anche in Svizzera. In Svizzera era 933-934 MHz, capito? E l'hanno presente dismessa nel 2003, da quel punto. E gli apparecchi erano di tutto rispetto, devi vedere che belli. Poi avevano già nell'81, ti parlo dell'81, quando noi avevamo l'FM500S, loro avevano di tutto, avevano radio con memory, con scanner, con subtoni, col canale di controllo, poi trasmettono un pacchetto dati all'inizio, alla fine trasmissione, per praticamente mandano l'identificativo del chiamante, capito? Bello, bello veramente. Ho capito. Mi viene bene che sono sempre stati un po' in ritardo, io lo sai, con gli apparecchi in Italia. Quando uno usava quelli 23 canali, in America c'erano già i 40, 80 canali, quindi... Poi sono andati i primi apparecchi che vendevano 40 canali, 120, dopodiché sono usciti 200 canali, da voi sono usciti quelli, gli altri modelli, quelli digitali, eccetera, eccetera. Adesso fatto quello che ti faranno il baracchino col video, così quando parli ti guardi e ti vedi quello che fa ciucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucc L'importante è che ti faccia il baracchino con l'ubiago, mi sa, no, se ne tiro una al microfono la senti lì. A voi. La verità che faranno il video, capito? Il baracchino per andare 27 in trasmissione, in ricezione, ci avrà qualche altra frequenza per poter avere con la faccia a faccia, avere più sì, vieni che ti faccio schiattare, vieni. In casa mia, da quando mi conosci, sì che ti vero, bello, ti vero, sei maglietta corta. Ti ricordi che 20 anni fa qualcuno lo diceva in frequenza nuovi entrati, dice guarda che io c'ho il video baracchino, ti vedo, E io non ricordo già, ma qualcuno lo dicevano parecchie volte. Aspetta che al prossimo passaggio di chi faccio riprendere il bombolino. Oh Antonio, le marche di quelle cose lì, quegli apparati là, erano Cybernet, Restech, Comitec, Uniace, poi quelli svizzeri, Stabo, che loro pronunciano Stabo, Clarion, Verifone, Uniden e roba del genere, dai. Ah, Uniden, sì, te l'ho già detto. Tutti i made in Japan, tutta roba di lusso, costavano un sacco di soldi, costavano fare 5-6 volte un normale baracchino. Sì, Clarion mi sembra faceva le liste con le macchine, faceva. Non ti ho copiato. Da Clarion faceva liste di tre auto. Sega, sì, me lo ricordo, adesso non l'ho più vista Clarion, non so perché. Erano per gli apparecchi, poi dice che la qualità di modulazione non era nemmeno paragonabile a un apparato VHF o UHF, dice che avevano delle modulazioni assurde, sembrava una radio FM, no, 88-108, peccato non li fanno più, comunque li stanno vendendo dalla Svizzera, solo che qua ci sono i cellulari e non c'è un bel QRM, è un casino, capito? Ah, quelli erano... Tutti sono arrivati a prendere così per collezione, non per operarli, si ritrovano ancora per quella che la resta, ma stai scherzando, per il metro tra i 900 MHz, c'è una quella frequenza chiusa per la telefonia, quelle, come i 450, d'altronde. Poi va bene, come quegli apparecchi che militari che stanno prendendo ogni tanto. I surplus vedono che prendi qualche cosa militare, ti a casa, solo che non lo puoi toccare. Cioè la puoi lasciare lì, accendi, ti metti a ascoltare qualche volta. Ma a casaccio non ci può passare, scherzando. Tipo PRC, ce l'ha avuto il PRC 10, faceva 38-52 MHz, riusciva a un 3-4 bar, funzionava, Penso che funzionava, dipende da funzionanti infatti, c'è anche un'antenna verde che sembrava piscita di cane. Cazzo, non è più serio, cazzo, niente da verde. Senti come c'è la vita, buon pomeriggio. Allora, quella che avevo io, avevo un'antenna, due antenne mi pare, una nastro e una più grossa, ma il problema era l'alimentazione. Poi te l'ho detto come faceva Mister X, no? Quando non funzionava una cosa, tipo la trasmissione, cosa fa? Cambia tutte le valvole, tutte. Cioè non è che trova il punto esatto, cioè non tocca la sezione giusta, capito? Tutto, cambiava tutto. Magari invece non era la valvola, ma era qualche componente elettronico. Magari era una resistenza, un gemisogno, un condensatore. Luca è morto, riprendi Antonella. comunque continuate a lavorare bene, se sono ultime. Ci risale la cera brutta, una bella rimuola di quelle antenne che usano i camionisti che fanno intorno ai 300-400 euro fatti in argento all'interno. E ci può attaccare senza tutti i kilowatt con una bella stecca lì, a vedere se pompano. Riprendete da un po' che ho lasciato il PC acceso, vado a vedere di nuovo un paio di radio. Sì, yeah, ok. Ragazzi, qua dice che regge una roba di 20 kg, fate 40. Ma la carica che fare un buccione di birra, cioè sembra la birra sempre, una bottiglia di birra. Adesso che ho visto. Sono anche belle come antenne, sono costruite bene, anche se fatte artigianalmente escono benissimo. Chiaro come stanno uscendo quei camionisti che sento, chi nella strada passando dalla Francia alla Germania, chi in Grecia, questo è dove 10 o 20, io il 27 non ho mai sentito un greco parlare, ma è una buona gente, ma non ci siamo alcun cibo greco in quella zona. C'era anche Luigi, c'era quella sul camion, costa una barca di soldi, costa. Io mi ero fatto quando senti quello là, e sto passando dalla Francia alla Germania, e non senti manco francese parlare in quel canale, per dire, in AM. Oppure con l'altro che è in Grecia, tranquillo, che arrivano le 20 di segnale, che non senti manco greco parlare, cioè sono alla tele, e sto transitando in mezzo alla città. Ma cosa a cazzo, tutti gli altri trudioni, insomma. No, da ogni tanto già si sente qualche francese, ma poca roba. Ma potete dire che quando entri con una radio del genere, sì, perché non è che in quei paesi lì non è che c'è radio di chissà che cosa. Quando entrano loro si fanno la parte. Sì, forse è capitato un camionista per dire, a me se sarei stato Iacco, l'altro è andato qua vicino a Veneto. Chiappa, è un bel forte arrivo, un bel forte, ma cazzi usano anche le 5000 turbo della Sirio, che altro che 2001. La pompa già, cazzo se pompa, escono bene. La 27 come frequenza è sempre la migliore per le chiamate in diretta, la verità, anche perché c'è molta propagazione e c'è molta più possibilità di parlare con molta distanza, perlomeno, capito? L'unica cosa, guarda, che non sono riuscito di qua ancora, non è mai capitato, l'unica cosa che mi è capitato di... Quando c'era la popolazione americana di parlare con uno, ma per 2-3 minuti che sono andato a prendere una fanculo. E poi invece da quando abito qua sono andato alla Russia, vedi, la Russia, Mosca la sento benissimo, anche la Polonia, l'Ucraina, arrivano molto forti come segnale. Perché c'è la pratica, il punto di discendo che non ho aperto, capito? Bene forte già. E questa zona la Russia forse qualche volta così, ma di solito c'è sempre la Spagna, dice cazzo di tedeschi in FM, ci sono un bel forte qua, e poi cosa ne sono questi paesi dell'est. Quando abitavo al conservatorio di Emanuele, c'avevo la Gambè e parlavo spesso con la Germania. Molto spesso, Spagna e Germania era appunto molto aperto, capito, lì per l'incendio di quella zona. Invece da quando mi sono trasferito da lì a qui, sono molto aperto per l'est, capito. Andare per poco lì. Questi pinguini. Marco, ci era entrato? Marco, niente. Tutti nei canali, quando passano un po' di giorni, non lo sento per niente. Ma prima, al parlato di due mesi fa, tutti i giorni sentivo queste ragazze parlare dal canale 1 al canale fino ai 28, 29, tutte donne, cazzo, non c'era un canale dove c'era, non c'era una ragazza parlando, hanno lavorato queste. Tutte queste ragazze non sanno cosa fare a Tabaracchino, cioè tutta la mattina stanno passando attaccate a Tabaracchino, so. Ma adesso non lo più. No, adesso ho preguntato come si sente. Ma prima già le sentivo già. Io dopo lì è tutto pieno di donne, tu vai di sicuro. Sì, appena due ragazze. Ci stanno 5-7 per canale parlando. Ma che le senti molto, molto, molto pochi. Deve essere la mandaggine, deve essere. Sai quello del paese dell'Est, no? Il paese dell'Est, parlando, sì. Sì, non ti ho ragione, tu dici nei canali FM 9910, 9910 come segnale, e lo vanno forte, richiami, non ti rispondono per niente. Qua qua è Italia. È Brasile, ma c'è tutto là. Sì, Brasile sì, Brasile è Portogallo, sì, da qua. Ho sentito quella di notte, lo senti, verso le 10:30, 11. Perché c'è il fuso orario diverso, cioè. Vediamo solo il fuso orario diverso. Poi parlano per conto dell'effetto e è un casino a capirlo. Siamo già abituato. Siamo lo posso immaginare. Che fa? E poi c'è una, qualche altra nazionalità. In Australia non penso che... quello lì è difficilissimo. No, in Australia no, cioè, non è collegato. Tu, in banda laterale sento qualche volta la Inghilterra, Belgio, per dire, basta, Germania. Spagna, Francia, Portogallo, le isole che ci sono lì in Atlantico che sono spagnole, che non mi viene in mente il nome. E poi cosa, ecco, ho sentito la Turchia, la Grecia, parlare, e basta, non ho inteso altro. Tunisi si vede, ma sentito io, tunisini, Libia, nulla. È difficile quello di quasi che non sia, che non siano favorevoli per le nostre zone, o forse magari neanche ne usano. Che ce l'hanno sentato in baracchino, ce l'hanno senz'altro. Gli Stati Uniti dove li sento? L'inverno, quello sì. 7, 8, 9, 9, 10, sento benissimo. Il Canada qualche volta l'ho sentito, ma poche volte, proprio poche volte. Ah sì, domani maniaco. Io sono Brigida. Pomolino, buonasera. Buonasera, buonasera. Lavorai, sei andato. Appa. Appa. Lo stavo scherzando, ragazzi. Cappa. Uscia poco. Allora, in giro la zia, andando a Ranghero, sai. Sono a lavorare. E io così a me incassi, cazzo. A me incassi. E incasso, via, va in crisi. Non sta guadagnando niente, cazzo, per carità. Oi, cazzo, sono. Non si sbriga a fare quella domanda, troppo, Antonè. Ciao Giuseppe. Sto portando con conto Giuseppe. Non sei arrivato io, come da dire, tipo viene. Prima per lavorare gratis di quelle macchine di acconti, se vedi che è proprio tu di cuisinetta che non c'è nessuno, mi chiesto a fare una cosa avanti, che io così non ci sto. Adesso ce ne metti in benzina, a salire e scendere tutti quanti i giorni. Cappa. Chi era? Antonio, che non ho copiato chi era l'amico. Marco Condo, si stava salutando. Ciao Marco, buonasera. Ciao Giuseppe, mi ascolti? Cappa, ti ascolto, sì. Ehi, buon lavoro. Marco, sto scendo 5 watt puliti, 5 watt puliti, senza, non accesa quella roba che mi ha regalato tu, è spenta. Ok, caspita, la radio è buona comunque, arrivi bene lo stesso anche se sono con l'antenna veicolare. Sei a casa, Marco? Sassa. Ah, vabbè, io mi arrivi bene. Bombolino. È esploso. Esploso? Hai visto? Qua in questa zona di Via d'Italia, cambio. Beh, sei ancora improvvisata, glielo credo, quando comincia a venire fuori adesso e comincia a calare la palpebra. Dopo che si è arrivato al mare cominciamo a calare. Vediamo fino a dove arriviamo, pronto? Sì, io già lo accompagno al vero, per quello già non ci sono problemi. Tu non so che dovrai riprendere di vedersi là, che arrivi da anche dopo un mero. Vediamo un po'. Un po' meglio va, un po'. Vieni va meglio, già va bene, come era come segnale, non ti ho detto niente, infatti. Se ti riuscivi di mezzo l'avrei anche detto. Avanti Marco. Prendete un attimo che sono qua le prese con una farina. Mi raccorda. Allora dove è? Non vi dico, ma puntare in Chiri di giorno. Poi avete già visto anche a Sassari, prima era vero la Vandezza, adesso c'è anche la Sassari lì a Papo Ottobre, si pratica la merda del cose, adesso appena arriva a Barcellona la campagna di giorni non si è fatto il bagno nessuno, te lo dico io. Beh, giustamente adesso stanno facendo pagare a tutti e il discorso è quello. La gente a pagamento non ci va nessuno, Antonè. Ma neanche io non ci sono problemi, che cosa devi pagare? Non devi pagare nulla. A tratta no, la butto che per andare al mare devi parcheggiare, devi pagare 1,50 euro, capito? Tu, se poi uno è furbo, parcheggia la cerbata lì al Padelfino per dire, figlia, si prende una birra, se ne prende spiaggia, si prende una birra piano piano, si fa il bagno e non paga l'accidente. Capo, sei arrivato, Leonci. Sono qua all'ecco delle gallerie per la strada di Alghero, dai, quella zona lì. La voglia, sto arrivando fortissimo qua. Ma ce l'hai attaccato a Gigi? No, negativo, liscio. E beh, lo puoi attaccare per dare un pochettino più di segnale. A noia. Ma hai attaccato tu. Ah, va bene, dai. Cappa, voglio vedere fino a dove arrivo. Cappa. Guardi, Pomponio. Arrivi, non ti preoccupare, già arrivi. Guarda che c'era il coso Alba, si chiamava, la ragazza che abbiamo messo in baracchino io, in via qua a Carbonazzi, a Piantanera col Di Polo, arrivava fino a Capocaccia, arrivava a Santiago Nodaca. Quando ho sentito la mattina che ero lì pescando con altri due CB, ma ti parlo degli anni 90, cazzo, mi sono messo male in testa, gli ho detto cazzo, via, ho detto giù, a te pare, ho detto Di Polo, questo interamento, ho detto a casa mia non usciva un cazzo, ti ho detto a casa sua, al primo piano, come si dice, io sempre vado da Capocaccia, era. Zanunza era, ammazza che ne è guaria. Sì, abbiamo regalato un baracchino, anzi alimentatore era alimentatore dell'effettivo 7B, abbiamo regalato. Il baracchino Inter 40-10, avevo fatto 10 watt, e poi c'era un microfono amplificato. E usava quello, che è stato con il quello in casa sua, figurati. E usciva benissimo. È un po' di volte da fastidio, cazzo. Magari un motivo un po' se non esce niente, un motivo un altro ci fosse. E così che capotteggia. Sì, Giuseppe deve essere una cosa della bazooka che gli avevo fatto io. L'ho messo qua a casa e non usciva, l'ho messo a casa sua, altrettanto. Lo mettiamo da fratello. Metto la birra, metto il sacco della birra dentro un coso, un sabuzzino, non vi dice Cadonazzi. E così è. Già esce già. Lo strano che non usci più. guarda il cazzo, devi uscire per forza. E oggi dove sei arrivato? Sono qua, quasi all'ergogio, non al bivio, però su per giù. Ancora sono sullo scorrimento veloce, dai. Cazzo, dai, 5-7-5-7 qua come segnale. Santiago 5, Santiago 7, senza problemi, dai. Ok, avanti, buon po'. Cappa. Marco qui, è spostato. Quindi già deve bere qua, qua deve essere 995 ancora. Giuseppe, è riuscita la bomba. Ma anche sabato Giuseppe è a casa domenica, no? Tutte le notti faccio, tutte le notti a fare. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Niente, la ricorsa, vabbè, meglio di... meglio di fare senza fare niente, già è meno perché sono 16 a dattero. Prendi la volo, da voi ti dica io. Perché no, non ti chiamo di là. Cappa, ma io mi ascolto a me, ma... Claudio, non ho sentito. Che è qua sto ascoltando, Claudio. Cappa, ce lo senti, salutamelo, dai. Grazie, te lo so, non c'è problema. Andrà bene, andrà bene. Vedo, aspetta, che cosa c'è se mi hanno detto stasera, del volo. Ah, mi sono sbloccato, mi ha detto già mio fratello, mi sono sbloccato per il dato urbano. No, non ho capito, Antonio. Che il comune ha sbloccato i soldi per il dato urbano, quindi dovrebbero assumere. Allora vediamo. Adesso mi fermo questa settimana all'ufficio di collocamento se fanno qualche cosa. Oppure se si mette in moto dopo come prima a fare tre volte a settimana a tagliare erba. Ah, ma quella faccia là se ti viene giù lì a poi. Potrei fatto oggi, deve essere in ferie, no? Non risponde al telefono. Quando sono tornato in seconda testa deve essere fuori, magari è San Giovanni d'Ortondo. E ho trattato stasera anche per i stessi soldi che l'avevo ancora io. Quindi gli ho trattato oggi per avere la rimanenza e evidentemente fuori. Ma già ne ho ancora messi da parte. Qualcosa ce l'ho messo da parte ancora fino ad agosto. E buonasera e buonanotte a tutti. Quindi mi abbonare Mario Antonello, come stai? Diciamo tutto bene per il momento, si tira. No niente, ho acceso le baracchine e mi avevo sentito lì di splattero. Sto andando a Nanna, sono entrato per salutarvi. Ciao Trudione, a me, Trudione. Allora Trudione anche a te, buonasera, dove sei in macchina? Papa, no, no, a trabaccare, vabbè. Ah buono, già ti sento anche abbastanza allegro, dai. Così Antonio ti sta facendo compagnia sino al tragitto. Ah, c'è Antonello, c'è Marco Conto, poi c'è Antonio Pomporino, quante di voi, dai. E ti saluto a tutti, ripeto, sto andando a Nanna. Credevo che ci sei tu Antonello Pomporio. Comunque, ci sentiamo alle prossime, dai. Saluto a tutti. E a Ciato ci sentiamo, buona Nanna, fate sentire. Non c'è problema. Sono 19, devo stare a semi 19 di agosto per... Non so, deve fare mi sembra qualcosa mia sorella. Quindi ci attichiamo e ci beviamo una bella cosa al bar. In bravo, verso notte, tanto già dormo da mia sorella dormo. Tu basta chiamarmi e organizziamo, non c'è problema. A te la scelta. Sì, non c'è problema per quello che posso dicendo. Te l'ha già detto l'altro giorno, Giovanni. Volete che salgo su 19 e lì a cena la lei e quindi dormo su. Mi ha detto che ti chiamo così ci organizziamo. Come sto salendo ci andiamo al bar, mi bevo un bel po' di birra e poi la cena da loro. Perfetto, dai, quando sei disponibile fine settimana avrò un colpo di telefono e ci sentiamo, non c'è problema. Va bene, buonanotte a tutti. Ciao Antone, ciao. No, buon volo, alle prossime. E Gaffa, è un arrivito Leoncino. Sono qua ancora, a strada. La quattro corsie per Paradino, dai. Ah, Gaffa, Gaffa. Sempre tutto occhio, dai. Ma qua c'è il video di bancali, dai. Gaffa, nessun problema, Leoncino. Qua arrivi sempre bene. Avanti, Antone. Sì, cosa stai facendo là? Quattro corsie stai facendo, Giuseppe? Ho capito. Cosa stai facendo da quattro corsie, ho detto? Sono qua di fronte alla... Sto superando adesso la strada di Gentiera, Mancari, quella cosa là, dai. E non ho capito dove sei passato. Sei uscito dall'Italia, se sei tirato dritto... nel poi da lì vai in quel punto dove è tutto, dopodiché si congiunge la quattro corsie. Gaffa, che bella va qua, ti vedo perché vedo tutto un pezzo di strada da qua io. Praticamente sei dietro a Monte Rossi adesso. Così perdi più tempo, intanto fai una pisciata, bevi una birra, tu vai e la fila pianta. Vabbè, stanotte mi sono portato anche le canne a pesca, adesso dopo che ci vanno loro a dormire, faccio quelle 4, 5 piante, 6 piante in ampio, e poi preparo la canna a pesca e la lascio lì. La tiro, e metto anche a pescare, dai. Cuscette, quindi se no senti manco di tirare qualche coppa in testa, quindi te lo risolvi nella mia che te puoi piazzare, perché se no ti gira l'ipotensione, quindi l'unica cosa è fare la canna a pesca, però ti fa compagnia. Se senti qualcuno magari qualche passo strano, ti giri, vai e discuti con lo buccio. Scappa. Già va bene, avanti, Marco ci si è entrato. Avanti, cucurucù. Eccomi, sono qua. Sto ascoltando un po'. Non c'è da un momento neanche aspetto. Cosa ti volevo dire? Giuseppe mi ascolta ancora, ma non credo. Lui arriva a 603. Oh, ti sento dove già risposto. Giuseppe lo sente a Marco. Sì, lo sento da me. Fammi la ponte. Vieni, lo sento piccolo, piccolo. Marco ti sente piccolo piccolo, Marco. Eia, cappa, arriva al 105 con quel lineare, quindi da antenna veicolare 5, tendente al 6. Cappa, io che ce l'ho nessun problema, lo sento Santiago 78, non 78, senza nessun problema. Riesce bene quel lineare, Marco, te l'ho detto che ci va benissimo, e non scappa nemmeno, non fischia. L'ho passata per la penetrata la barattina perché ne era più di 15. Solo ci è passato l'azione, un minuto di poca roba e l'ho abbinato benissimo. Adesso è una bomba con quel microfono. Troppo, troppo. Beh, almeno rifunziona. E qua purtroppo gli hanno fatto una cavolata con la paratura. Praticamente posso passare in AM solo da 10 a 8 bar. Di più non posso passare, quindi non lo posso pilotare. Con le droghe all'SSD, dal break. Io ho capito. Quando ti metti in antenna a partetto, Marco, che c'è qualche soldino, sei anche a lavorare. Ti prendi un 1080 e un 440 sei tranquillo. Esci come battere l'apparecchio, come usare un Ferrari, in teoria. Non c'è bisogno di usare nient'altro, usa un apparecchio unico, fa tutto, fa anche la caffettiera. Fa. Però a me piace, mi piacciono ma non, qua non li posso usare e non li devo usare. Se vi non controllo cosa dico, che per pigliare la radio effetto. Sì, si chiama un bel digetto questa cosa qua, non ti preoccupare, anche se è una questione. Quindi non ti preoccupare per quello. Se non disturbo nessuno, nessuno ti cerca, io Marco. Lo so, però per spostare su un canale in banda CD ho sprecato, capito? Quindi avevo un'offerta Magic Phone da poco, 3.20, presente e ottime condizioni, subito vendita. Io invece ho speso 2.55 per questo con le bande laterali, cioè 2.45 più la spedizione, più l'alimentatore 50, lì ci veniva qualcosa, ma non ne voglio tenere qua, dai, poi. È un casino. Voi sapete la mente di andare sul palpetto e trovate qualcosa per poter ammortizzare le spese. Poi vedrai quando compri uno come questo, cambi idea, te lo dico io. Perché è bello usare questo qua. Se non disturbi nessuno, sei d'accordo che nessuno ti rompere i corsi. Poi se dovessi fare i guai, cioè che c'hai questo o che c'è l'altro, non cambia nulla. Se disturbi, disturbi con tutti e due. Se vedi che non disturbi con quello piccolo, figurati un po' grande. Lo so, ma sai, qua ho 5 watt lì, con quanti watt a 80-100, non voglio alzare. E una volta che alzi, a parte che in città non mi servono, disturbi anche gli altri canali. Guarda che non è detto che devi usare 50 watt, esce anche con 5 questo. C'è il regolatore di potenza. Non è che devo uscire con 50 watt, eh? Io sono con 50 adesso, guarda. Adesso sono con 5. 12 tondi. Adesso con 2 watt, guarda un po'. 50 mila watt, mi ascolti. Santiago Cisa del Banco. Però lì. No, ma lo so che è regolabile, ci mancherebbe, però avendo praticamente ti spinge quasi usate, no? Non è detto, via, non è così. Questo è il suo sorriso. Io lo uso così perché l'ho abituato così il mio. Non l'ho mai diminuito meno di 50, capito? Sono usato così, ce l'ho più di 20 anni, lo sai, non è che ce l'ho un giorno. Però volendo posso dare anche 5 watt, di un mezzo watt, e riesce bene lo stesso. Il mezzo watt che da questo come un watt e mezzo di un battito normale, per dire. Oia, che dire. C'è un po' leoncino dove è arrivato. Leoncino! Io sarebbe sì. Tutto bella, no? Altro non lo senti più. Sono negativo, non lo sento. E io già ti sento ancora, Luci. Guarda vedere se mi senti a me. Niente, Antonio. Si è arrivato la via alla Andriga, ormai. Se gli andi a fare un culo, se. Ti sto guardando il culo, sì, perché anche vicino a tutto bella, lei non la buona. Oggi c'è un pochettino negativo con la zona, strano. Strano, molto strano. Cappa. Leoncino! E qua arriva passo, arriva Santiago 3, Leoncino, quindi senza lineare Santiago 1. Quindi a me non mi potrà mai sentire. Tu, a te proprio Marco mi fa respirare il coso, lo Smith. Ma è stato gli accantoni ci arrivo, Sì, è che siamo in ora troppo presto. Si attacco in soccorso, non vedi che arrivo. Ah, ti attacchi di l'orinale? Vabbè, per forza devo arrivare. Se ne arriva lui, devo arrivare pure io, per forza. Però non lo posso attaccare, se no sono la televisione. Quando stavo dicendo, attacchi l'orinale, poi si spegni i televisori di vicinato, stavo col bastone. No, non è che sono avvicinato, spengo quello di fatto. Ah, vabbè. Tutto il mio, tutto quello che mi ha toccato, è mancata la luce, sono stato la batteria falsa per andare io. Sì, così bene mi trovo la macchina a capo. Dimmi Marco. Io mi ricordo ancora che avevo 14 anni, 15, no 14 anni, avevo preso il D30, l'espressa D30 ad Adriano, convinto che io non capivo che bisognava quadruplicare la potenza per salire di Santiago, no? L'avevo attaccato a casa con la Gran Prima, praticamente buttava fuori un po' di spugli, era terrificante. Allora, come premevo la portante, diventava schermo nero nella TV, cioè sembrava un digitale terrestre, premevo, faceva lo schermo nero, e l'antenna pensa che era molto lontana dall'antenna del baracchino, era nel palazzo bianco, era una cosa allucinante. Cosa si fa allora? Mi ha avuto due di quelli lì, di quelli lì. Morto nel 1969 mi morto nel bastardo, ti credo in monte. Io decisi, poi dovevo usare un parte, del massimo due parti per poterlo pilotare, se no usciva tutto quanto sacro. Allora, io ci ho provato il B131 anni fa, con Montemolo. Non riusciva benino, 80 watt soli, ma punti punti. Solo che non era per me, l'ho ridato una settimana dopo, rivenduto cioè, no? Cappa. No, già bello che non c'è un 31, io l'avevo pur venduto, perché una volta che era arrivato l'escopo, questo qua, che avevo, non qua, ma tramite le mi hanno trovato il 231, l'avevo attaccato, se avevo il multimotore 3, una KB23, due toccai, c'avevo tutti un paio di un lato lineare da 300 poi c'avevo. E mi ha detto che mi faccia sparire tutto, la sua volta che avevo qui non voglio prendere nulla, mi ha detto. Si mette, si compra un apparecchio valorato, vogliamo avere solamente quello. E così avrebbe voluto fare. È andata bene, è andata molto bene. Certo gli hanno portato lì anche le chiappe. Mi erano attaccato ad Angelo, mi avevano messo quasi 1 milione di multa ad Angelo, mi hanno fatto pagare a poco, io mi sono salvato e anche Mario ce l'ha passato, poi Mario Manser, un tempo dietro, e gli avevano sequestrato un baracchino che andava, faceva 11-45 metri, era un bel baracchino. E allora se questa non era più tornata, invece se tornando dopo non gli ha capito la causa e gli ha tornato tutto, capito? Però era passato anche lui casini per via dell'escopost. Ce lo credo. Baracchini ci dico 40 o com'era? 40-45 metri. È più grave di così, ma non l'hanno denunciato penalmente, no? No, no, abbiamo pigliato il barattino, abbiamo sequestrato e non gli avete tornato. Diceva l'aveva messa nella pressa, non vi credo io, ho detto. Quel barattino ha detto, ci hanno venduto, ha fatto il volo, ci hanno venduto, ha detto il barattino. Anche se ci ha messo gli appariti, li hanno tutti tornati, c'erano altri 200 canali, c'aveva, mi sembra dei lineari c'erano. E due hanno trovato tutto. Non vi ho capito. Mi ha detto 10 qua. Che c'è? Comunque, un pomeriggio che c'è, c'è benissimo. Se avessi avuto un 550, se avessi avuto un numero del 15 o del 20 qua. Attira quel lineare, ti attira molto bene. Chiedi dov'è? Già va bene, a me non mi senti, cazzarola. Non senti Giuseppe Antonio che ti sta chiamando. Non so se tu riesci a tirarmi fuori, cazzarola, ma io riesco, Santiago uno, ma riesco a sentirti, dai. Ti sente tanto, Antonio. Dove è arrivato? Ti avvicino al ghiero. Sì, per forza, adesso è sparito anche da me. Sparito adesso, però, aspetta, mi arrende cosa fa. Buono, buono. Ah, che c'è? 40 euro infatti, 8 di spedizione. Sì, quella poi è infatti minimo, quello che c'è uno scontrino ancora. Vieni Giuseppe. Non sei andato a vedere Alfredo Vecchio, Alghero, ti metti assieme a Alfredo Vecchio, così ti fa la, con tutto quel freddo che c'è, ti fa la lampa, ti fa il riflesso, come se fossi un traghetto. Con una pila in mano, manco, perché ti vede Bubu. Ah, ma lo sai, io si è controllato che entrava anche la gatta con un nudo bello cotta che si mette lì. Venga signora, l'accompagno io al bagno. Venga signora, che devo far trovare un'altra fila. Allora, che immagini? Venga, venga signora, anche pure, non c'è problema, dico anche la signora Zoraio. Ho detto, stanotte Giuseppe lo violetta. Come fa una fare guardiana al buio, lo spieghi? Senza luce, senza nulla, ma... A me mi sarebbe venuto l'ansia e anche le sincope, perché qualsiasi rumore che senti, magari da male te ne va per qualcuno con la muta da sommozzatore troppo davanti, no? Che sembra che sia un coso, oppure un negro, sono i denti di notte, e gli occhi, cazzo. Ah, si è punito la mappa al baseball vicino, e tutto è risolto. Un negro, che poi quando nel buio vedi il sorriso vuol dire che te l'ha già messa dietro. Tu guarda, dimmi se non è vero, tu puoi guardare un tipo negro in macchina di notte, tu non lo vedi dentro la macchina, non vedi per niente, vedi solo i denti, gli occhi, non vedi altro. Guarda, c'è una nostra... Anche Giuseppe. Questa macchina in città di notte, no, con illuminazione scarsa, molto scarsa. Visto questa macchina guidando e non vedevo nessuna la guida, invece c'era un nero, praticamente non si vedeva il viso, la testa non la vedete. No, lo so che è una cosa così. È successo a cosa? A uno, quello che c'è laboratorio di via Cognizetta, siccome dove è scuro di carne, molto scuro di carnagione perché non è origine italiana ma africana. Una volta che entrava da Cordova, aspetta, vediamo se si chiama, da Caledonia, i carabinieri la fermano tutti i giorni, perché non volevano guidare, capito? Aveva solo i denti. Ricordati che a buio il nero non si vede ma si sente. Sì, da dietro lui, non credo già, perché c'è il malincotto davanti. La strada, arriva, ops! Allora... Giuseppe, avanti. E ciao Giuseppe, sta sempre meglio di notte, dimmi. Mi raccomando, controllate che hanno i denti bianchi, se no vuol dire che non sono precedenti. Via, ciao Giuseppe, ci sentiamo, avanti. Marco. Sì, salutamelo, se riesci. Tanti saluti, io non ascolto più adesso, prima arrivava due, adesso. Salutami Giuseppe Marco D'Antonio. Lo saluto pure io, vai, che sono andato un attimino a prendermi la lenzuola, che ha visto, perché mi devo mi preparo il letto, mi figli troppo fra un'oretta, vediamo un po'. Ok, ma mi senti molto bene, molto meglio mi senti da poco fa adesso, ma Marco Santiago 5, la radio è un po' migliore forse, o stai parlando più forte? No, no, è migliore. Sembra più forte. No, è un altro microfono. Sabetta? No, è inconfondibile. Ma io non me ne intendo molto, non so, inconfondibile. Che microfono è? ZGM95, forse ce l'hai anche tu. No, veramente non lo conosco, credevo che avessi qualcosa da tavolo. M95, no, non li conosco, bombo, io sono rimasto molto indietro, è roba per la 27. Cazzarola, esisterà... Quanti anni lo faranno? Lo faranno un 20 anni questi? O no, un po'. L'M95 quanti anni lo fanno? Una ventina di anni, penso, no? Ah, se non ci avrà 7 anni, 6 anni, non di più. Ho avuto anche quel microfono, ho pensato uno di quei microfoni ai baracchini, ho fatto anche la capsula di tu, ho rimesso la capsula dei... come si chiama? mi dice che tu fuori. No, questa è praticamente, c'ho un numero di microfono a tavolo, c'è un gol tip. C'ho come un microfono a tavolo, gli ho messo la capsula di quei telefoni bianchi, hai capito? E fa la grande, questo è il mio, me l'ho sempre tenuto gelosamente, perché è un microfono che va benissimo. Ma sai quanto ce l'ho distante? Ce l'ho sopra il tavolo mio, io sto parlando da lì, mica ce l'ho attaccata a bocca. Sta facendo bene a voi. Ma te avanza il diavito. Avanti, Marco. Io, quindi Zetagino, ho avuto solo una volta un MBP4, solo che non mi piaceva, nessuna posizione del tono, non mi è mai piaciuto, infatti poi l'avevo dato lo stesso. Poi non era considerato molto bene all'epoca, 20 anni fa, andava forte il Turner B3, quello era il più ambito da tutti. Poi c'era quello Shure a tavolo che aveva Mario Notari una volta, non so se lo vendeva oppure se ce l'aveva solo per montare i connettori, quello col potenziometro rosso. E usciva chiaro, con gli apparecchi tipo il Superstar usciva chiaro, cioè non sentivi né con le timbriche metalliche, né cupe, né niente, usciva chiaro, una telefonata, sembrava in FM. Ti stai sbagliando, non era il più 4, era il più 5. Ehi, ti ho capito, io sto parlando di un altro microfono che ho avuto da tavolo e che non mi piaceva niente. Ah, scappa. Avanti, Bubu. Ma comunque vanno bene, cazzo. Dipende, magari non andava bene perché c'era la capsula che non serviva a niente. Se facevo una modifica a qualcosa, magari pompava qualcosa male. Avanti, Bubu. Mi incappa. Ma già sono dei microfoni abbastanza buoni. Shure, tale più 3, tale più 2. Poi c'era l'SBE. Il microfono lavora benissimo, poi sono nati gli MP2-4, P5, il Salerta, altri microfoni, vabbè. Mi prenderei sempre la timbrica del personaggio che parla dietro al microfono anche, capito? A volte si adatta, a volte no, c'è anche lo scambio 500, io ce l'ho qua uno scambio 500 da riparare, ancora devo metterlo a posto, non funziona, figurati. E io c'avevo le spalle 500 attaccate a un timore 3, usciva bene, solo si portava tutti i rumori dietro della strada, quando passava il tram via dietro si intendeva il grappa per passare, sembrava che fosse dentro la camera, nel traslato sembrava, perché io modulavo da lì, dal traslato modulavo spesso, perché dentro casa non avevamo fatto pensare niente, mamma, nel traslato del terrazzino o nel traslato? Perché avevano freddo, avevano freddo, a pisciarsi sotto. Ma immaginate che la mia tavola alle 7 e mezzo alle 8 del mattino, qua c'è il 231 per scaldare, e se no non ci vuole neanche bene. Mi ricordo il terrazzino, qualcosa me l'avevi fatto vedere lì, Radio Casino. Anche un Toccai mi pare ce l'ha passato una volta, no? Il 2024. Sì, Toccai, HB23, di tutto ho avuto. E se mi faccio i calcoli di tutti i soldi che ci ho speso a Baratino, ci usciva ragazzi, la macchina ci usciva. E la patente, ma se ce l'hai la patente ma non guidi? No, non ho mai dovuto prendere patente, io non me ne frega niente. Quando non soldi adesso, li piglierò la patente 50 e basta. Mi piglio la patente la patente 50. Tanto per andare a fare la spesa e a portarmi qualche posto, se no uso il ciclomotore della BNA, purtroppo con la crisi che c'è adesso, un dirigente si sta prendendo l'automobile, già l'hai visto, non ci riesce più a tenerla, no? La circolazione, e bollo, e tutte le cose che ci sono, hanno dopo patentato che le fanno subito adesso, ma scherzando. Sì. Io l'ho dovuta dare l'appunto che era un buon carraggio, fare il motore, una pompa, i miei due principali, sarebbe lo stesso, però l'abbiamo data e chiudiamo solo quella, la Opel, si è basta quella. Che macchina era? Una Fiat Punto del 2000 credo, con 2016 vapore, costava un bel collo perché tanti cavalli, quindi anche qui lo battono la misura di cazzo, quelli vanno bene, vanno quelle Punto soprattutto, è una macchina perfetta. Ecco, c'è la mia che ho otto valvole, la nostra, dai. La nostra che ho otto valvole, uno dei primi modelli, dai. Del 97, 1242, cazzo, va sempre bene, va. Sì, ogni tanto ricambi quelle cosettine che ci vuole, giustamente. Olio, filtro e cose che... cinghia e tutto quanto, tutte le cose essenziali che ci vogliono, però cazzo è un gioiellino, dopo che ho cambiato la marmitta, cioè, giustamente c'ha più di, quello c'ha 14 anni, che cammina pure ogni giorno con la macchina, però va bene, mi metti l'olio, se ricontrolli l'olio, ricontrolli il liquido, li fai sempre il livello, ogni tanto glielo cambi, glielo fai e cose, fa la grande. Vanno benissimo con le macchine. Purtroppo aveva dei problemi risolvibili con un bel po' di soldi. Praticamente, a parte che non ha clima, in inverno non scaldava più perché il radiatore, il radiatorino del riscaldamento si era pressurato, praticamente si appannava al petrolio e non si riscaldava più, perdeva, quindi ci voleva 400 di spesa, dovevano smontare tutto il cruscotto, tutto, se lo servire tutto quanto, fino al motore dovevano arrivare quasi, e non ne valeva la pena, quindi ce l'ho buttata. Lo so, quella fin fine il radiatore costa una cazzata, lo so che cosa fa quella macchina, costa una cazzata, costa quel radiatorino, ci vuole più a togliere tutto quel cazzo di cruscotto che montare quella cosa, che costa una quarantina di euro, cioè, praticamente faceva s'appannava i vetri, giusto, lasciava lo strascico. E quello lì io quando arriva lì in inverno, anche per riscaldare un pochettino più in fretta, lo sai cosa li metto per non mettere calcare niente? Li metto l'acqua da bere perché il liquido che lascia quella patina, hai capito? Li metto il liquido, li metto l'acqua, li metto e va meglio, non di certo l'acqua del rubinetto, l'acqua pulita di quelle che non hanno calcare. E allora va bene, capito? Se tanto ritorna a rimettere l'acqua, a meno che non ci sia paccato un tutto, allora è un casino. Purtroppo, bombolo, era più grave. In inverno ti diventava, se accendevi il riscaldamento, diventava una sauna. Cioè non una sauna, sto spiegato male. Diventava tutto bianco il vetro, non vedevi, era pericoloso, era veramente pericoloso. E quindi via via. Poi anche il pollo costava un bel, l'assicurazione, pigliava più cavalli, no, non ne vale la pena, capito? Non per me. Non avessi lavorato magari l'avrei tenuta, ma no, non è il caso. Non per me. Questo dicendo per gente sta muovendo la macchina, se la sta vendendo. Ho visto qualche cartellone in giro adesso. Vende, tutti stanno vendendo la macchina. Capito, ma la gente ha capito che da bolla, assicurazione, benzina, casa della vai, ho campo la macchina, non immagini, due sono le cose, quindi o si sta campando il motorino, o sono di quelle 500 modello vecchio che paghi, o la macchina all'epoca, e potete pagare poco di assicurazione. Cappa, mi stavo dicendo, ma adesso mi è scurito la testa. è così, adesso un po' di gente anche che c'è la macchina, ma sta tenendo, la sta usando lo stretto necessario proprio a lavorare, magari o va in trappa a piedi, cazzo, perché non è più possibile stare a mangiare, cazzo, questo piatto della macchina, cioè la macchina, un biglietto del traghetto lo paghi, come adesso lo paghi 1,20 euro per dire, per andare al posto, se abita la Torre, devi andare con adesso a lavorare lì, a, con adesso a Corso Trinità, devi andare con adesso in via Zaffarino, devi andare in quelle zone, è preferibile prendere un traghetto, portare 1,20 euro il biglietto, capisci, prendere una macchina e consumare la benzina, consumare un po' di benzina e consumare un po' di gomma e cosa, così che la gente ci sta un pochettino anche rinunciando. Oh, buon volo, mi che stai leggermente innescando, poco a poco, si sente forse la batteria mezzo scarica. Sicuramente, sicuramente sì, guarda per se va meglio. Un po' meglio, forse lo fa con i passaggi lunghi, capito? Che più tardi si tende a calare la tensione. No, no, è quel cazzo di batteria che sta un pochettino calando. E cosa ho detto? Cala la tensione, c'è la batteria, ovviamente. Ma mi dice che lo discorso, solo che ha fatto con mandrone a Ciampamira. Siccome non costano, più giù. Non è che così tanto. Scappa. Adesso lo metto normale, vorrei che non succede più, aspetta un attimino il cambio baracchino, domani prendemela a cambio, ce l'ho mica, aspetta un attimino, dai, adesso uso un altro baracchino a vedere se mi senti, dai, un attimino. Poco poco non è, 4,50, 9.000 lire, una batteria, una proposta, e quando mai? 9.000 lire, cazzo! E così cosa, non mi frega un cazzo. Io quando la compro la compro fatta. E non so che costa, ma alla fine ti serve la prima. Un attimino. Vai, vai. Oh, Antonè, ti volevo dire, l'avevi mai vista su internet con la stazione di quel variatore olandese? Ha questi, ha numerosi tralicci alti 30 metri e più, e tra i tralicci sono messi questi poli in tutte le maniere, sembra di vedere la stazione Duga 3, che è quella di Russia degli anni 80 in Ucraina, e mi pare che, se non ho capito male, trasmette fino a 500 kW di potenza lì. E c'è una stazione, c'è una specie di bunker, una cosa spaziale, ha dei relay giganteschi per la trasmissione, tutto un pannello di controllo, una cosa incredibile. Questo 500 kW che è tipo Radio Vaticana. Sì, quello che ne ha soldi per pagare la luce. 500 kW sono ben. Io video su YouTube, non mi ricordo il nome del tipo, c'è un solo apparato, un apparato però di quelli di top della e-commerce, ma quello enorme, ma tu devi vedere da, i relay, quei cosi che ha, poi non ho capito il cavo abbia, c'è un cavo largo quanto l'albero. Che cazzo? E quello che già ne ha tutti appassionato, io non avevo speso tutti quei soldi, la verità, no, non mi frega un cazzo a me. Penso a mangiare prima, poi il baracchino stavo via in cura, a meno che non avessi fatto per dire servito se poi era rotto. Allora avevo voluto dire, beh, tanto in casa i soldi non ci fanno, in banca i soldi non ci fanno niente. Guarda, faccio shopping, mi ordino un po' di apparecchi grossi, di diari, cose del genere, me li piazzo in casa, poi mi compro una tavola, me li piazzo in una tavola, e quindi mi sono andato sprecati così. Poi, magari, essendo poi arrivato a 80 anni, che poi sono incoglionito e ci rimango sotto, se con gli apparecchi, ma cosa che fanno, si rampa nella mondezza. Lo prendono i tuoi eredi, i tuoi figli. Poi tanto quanti ce ne sono che hanno i malattini in casa e il figlio non gliene fotte nulla, ma cosa ne fate? O ci vende o ci butta, due sono le cose. Non è così, no, la passione è solo per noi, è difficile avere un figlio per prendere la passione del padre. Ma mi ascoltate? Sì, che ti ascoltiamo. Scappa, non so se Marco mi sente. Sì, allora, hai metto Santiago di più, Santiago 5,5, però la radio più vicina. Piatto. Ma tanto me non fate, com'è possibile? Dove ti dica? Mi sembra un 50 in più, o 2-3 di più in più. Ah no, ma non vedo un po'. Di radio sei più basso, Più basso a casa tua? Sì, di radio sì, anche di segnale. Sei 9,2. Strana cosa, certo. Sto usando l'Alfa Jet, sto usando. Alfa Jet Zeus. Ma di che cosa stavate parlando? Di passione trasmessa? Di tutti quelli che hanno 200 apparecchi in casa, per dire, quando poi lui crepa in pratica il figlio, ma per le fasi l'ha perduto, solo quello ci butta tutto, sono due sole cose, quindi tutti sono dei mestosi in quella passione, è come se avessi buttati al vento, per dire. Come a volte capita con le auto, che c'è quello appassionato di macchine antiche, se il figlio aveva comprato un accidente, figlia si vende tutto, ne ha tutto un bambino, al figlio si è sentato il poveraccio, ha speso un sacco di soldi a sistemarle. nell'87, sei stato tranquillo adesso. con stipendio beato, che è stato fatto. Non dice da Manico perché ben Manico mi hanno resiste più. Se è stato trasferito all'ospedale civile nuovo o a cosa. È stato bene. Sbagli che si fanno, sbagli tutti. Prima non ci voleva nulla, ci vuole il corso. Sto dicendo che li sto vedendo qua, sicuramente non spettacolo, ma certo così sono. Allora qua, prima con i genetesi virtuali c'è anche durante l'interno mi succedeva, adesso il computer si sturba, mi fa correre, il monitor del computer si sturba, queste luci adesso con questi a risparmio che hanno il circuito si sturba, i televisori LCD disturbano terribilmente. Qua è un disturbo continuo. Per esempio il QRM anziché 0 va a 2, a 3, si volta a 4, a seconda del canale, no? È una cosa incredibile. No, ma soprattutto il televisore vecchi che lo fanno, cioè non vecchi vecchi, quelli degli ultimi che sono usciti. Dopo cattolico normale con il cazzo a me mi disturbavano parecchio, invece questo che ho comprato a led e cosa, questo non mi disturba nulla, non mi disturba niente, invece quello ha cazzo, mamma mia. Naturalmente con l'antenna sul tetto un po' si risolve, però mi sa che tutto l'antenna sul tetto ben cortato a fianco, quello che mi sono finato è tutto un pasticcio. Comunque di notte sicuramente il QRM si abbassa molto, come era una volta, di notte non c'era più QRM, c'è un silenzio assoluto, tranne le ruote rimaste, insomma. K, ok dai, io vi devo lasciare, vi do una buonanotte, buonanotte a te, buon buone, buonanotte a te Marco. Buonanotte a tutti, dai. Ciao Ando, ci sentiamo, buonanotte, allora fammi bene, ci sentiamo alle prossime. Ripigliate la Marco, bei tempi. Vabbè, vecchio, va sempre bene. Allora siamo dei pochi, ormai c'è il computer, tutti si sono lì a chattare, ci si mettono con quello. Buonanotte Bombolo, ci sentiamo alle prossime. Il computer sono queste cose, ma per il chat sono tutte in odio, poi nel 2099, 2002, 2003 c'erano ancora quelli incredibili del chat, ci urlavano gli acconti, vabbè anche adesso non è che state nel comune, io mi ricordo che cosa era entrato nella chat che si chiamava G6 all'epoca, no? Dove scaricare il programma. Io facendo il donkey mi ho fatto vari nomi antichi, no? Vari nickname. Mentre sono entrato in un canale a chattare, è entrato uno sulla chat e ha fatto comparire i miei tre nomi della, che avevo, no? Nessuno sapeva che usavo, che ne avevo tre. Ci sono comparsi tre nomi scritti da uno, no? Quindi deve aver avuto appunto qualche backdoor nel programma, oppure dal server stesso, è entrato, ha fugato nella cartella apposita del programma, dove c'era il file, che non mi ricordo come si chiama, era un file che conteneva i vari in varie cose. Attenzione, ma che c'è? E chiesto, come hai fatto? Come hai fatto? Dimmi quello. No, te lo dico. Già lo so che... c'è gente ben brava che riesce a scovare tutto, anche se tutti mettono il codice, quello che vuoi, lo scopo lo stesso, non ci vuole molto. O se no fregatevi i diritti mia, che ti arrivano le bollette di gatti da pagare, a nome tuo. Voi ci potevano fare tante cose. Di solito c'era il solito cretino che su Emule, su Wimix condivideva non solo la cartella di spazio, ma si condivideva tutto l'audit. Quindi vedevi che tu nella cartella documenti, vedevi che era proprio personale, non ti dicevi. voi c'era qualcuno che condivideva tutto il C, c'è tutto la rischio e tramite di fare nei figli o sono cose che non ti potevi accedere. Per non parlare di troiani, dei programmi per cui avevi il controllo completo del computer di uno. Di fare di tutto, di tutto, di tutto, di tutto. E infatti mi erano anche entrati a me. Ui ui, bisogna spendere i soldi lì per formattare. Beh, erano un dimando mobile, come fanno a fare i soldi, a risistemare tutto, divenne la tecnico e fatto da nuovo di programmare, non sono così scimica. Poi ogni mese c'è un virus, se non di più, figurati, uno o due computer imballano, se non sei bravo a metterci l'antivirus, sei fottito, devi portarlo da qualcuno che è e ti costa da minimo 50 euro, 30 euro, quindi sono sempre soldi spendi. Una volta ero stato attaccato da quel virus che trasforma praticamente il computer zombie. In sostanza mi ero accorto che il processore lavorava al 100%, no? Non capivo perché. Allora ho fatto il comando dal prompt, NetStat, e praticamente si vedeva che il computer mio bersagliava tutti i siti governativi, perché erano tutti i siti .gov, figurati, bersagli governativi praticamente li inondava di dati o cercava di uploadare e mandare il virus anche a loro. Ma tu devi vedere, c'era tutta la schermata piena, lo faceva a raffica e non potevo fare niente al computer. E lì veramente non ce l'ho fatta nemmeno io, lì l'ho portato al tecnico e ha fatto tutto lui, ha formattato. Sì, perché così. Lo sai come imballare il computer? Se ti metti 10-20 persone e li mandi i dati al NAS, lo fai impazzire, ecco, capito? Poi naturalmente dopo la legge sulla privacy del 2003 non ti tocca niente. Mi ricordo che c'era un ragazzino che aveva questo NIR che vedete una chatte, quelle vecchie, no? Molto molto parecchi anni fa, e questo aveva un mio che tipo quelli di gofo di coso, non so cosa era, praticamente porterebbe anche delle armi, si chiamava Stefan, ma aveva un nome strano, c'era un'opzione per cui potevi disturbare tutti gli altri portandoli come se fosse un dato in modo da disponerli, no? Siccome me ne era accorto con certi metodi, gli ho detto, ma casa si chiamava, una cosa del genere, non mi ricordo, un nome particolare. Poi gli ho detto, disattivare quel programma, no? Perché se no lo disattivavo io a lui. Ora ci sono un sacco di quei bravi che si divertono a imparare il computer degli altri, cioè, ce ne sono parecchi. Lo fanno proprio per fare i soldi, lo fanno. Questi i soldi non è fatto, perché il programma era gratuito, quindi comprendeva la chat, il mic, più tutti gli strumenti per disturbare, ce n'erano anche quelli costi, l'ho visto, il programma era fastidioso, poi all'epoca si poteva fare, adesso non so perché. Non mi è successo di ricevere quel tipo di flusso. Sarà che c'è forse cose da usare, no, beh, non lo usa, il telecom prima ancora non arrivavano più, ma prima era si bloccava, come non riuscivi più a navigare, capito? Ho capito, quindi bastava attaccare tutto e la parte durante lo promo, ragazzi, non avete avuto problemi. Io c'avevo il computer qua, l'ho regalato, ma mi sono girato le balle un giorno, capitano casino, l'ho visto così, va a far culo, l'ho regalato, mi ha detto vai allangiati, fate segnare lo giallo, io non lo voglio manco vedere, ho detto non mi interessa, ho tanto 20 anni, più che altro mi interessava per vendere per il mio. qualche schema, un po' di scaricarmi qualche schema, un po' di baracchini per vederli, solo per oppure per comprare qualcosa. Se no va ancora ben esatto. L'altra sera ho sentito che si parlava di chiave di USB per connettersi al wifi. Conosci un amico di tirare linea, poi so che non rischio perché l'amico non sa cosa fa, se non la credo sono in buona fede. E comunque ormai è stato tra noi, anche se hai la wifi protetto da chiave VPA, che è questa, non quella banale, anche la VPA, mi pare con un programma a tempo 2 ore, intercetta tutte le cose cifrate, le decifra e praticamente ti dà la password per accedere al tuo wifi. Infatti ho una fifa con il mio, guarda, anche se metti password lunghe e solo questione di tempo tutte le... Il programma come cavolo era? HTTP? No, un altro nome, è terribile infatti, bisognava cambiare password spesso e poi addirittura venivano tutte. Infatti la confidante che aveva beccato, anche se sono cose che trovi su internet, se no tu ti prendi il programma. Adesso te lo dico così a scopo didattico e non si può fare. Ti prendi quel programma di quel modem da 1 watt, 2 watt, 1 watt, che mi costa a 2.400 euro. Ti riesce a che antenna, un'antenna direttiva a Torino, quando c'è il balcone ad entrare, uno praticamente poteva ciulare il wifi di un altro a 70 km di distanza, per immagini. Quindi questa è stata veramente la roba degli altri da gratis. Sicuramente ripeto che è illegale, però se vengo su qui, appena wifi, direttiva, quello non viene pesce. Qui c'è il modem da 1 watt, addirittura hanno fatto quella 2 watt, non è di più. E poi il programma famoso, cioè puoi usare quelli liberi, non puoi, ma in teoria potresti usare quelli liberi, gli accessi, e se non sono liberi, non sono con password per la credito. Una cosa incredibile, infatti io vuoi fare lo programma con molta cautela, e poi per accorgerti se stanno entrando vai sulla pagina monitor che ti fa vedere le connessioni del wifi. Se vedi qualche scheda di rete collegata che non è la tua, devi staccare subito. Ah, ho capito. C'è sempre il metodo per poter utilizzare le cose a gratis. Come si faceva una volta per le schede della... Aspetta, che succede di qua? Se no, scaldavo troppo dopo la parecchia. Come si faceva per le schede TV per guardare i film sul satellite, il detto VHS? E allora, ogni volta ne inventano una, adesso è un po' piuttosto, ma non so se cosa fare. Comunque, sai cos'è quella storia della scheda di rete, l'indirizzo della scheda di rete? Praticamente se a te ti accedono abusivamente al tuo modem, wifi, se tu vedi un indirizzo di rete e hai sospetti su qualche vicino, però devi avere sospetti fondati, se poi gli mandi un controllo di coso, la scheda di rete praticamente ha un indirizzo univoco, tipo la chiavetta wifi, no? Ha questo indirizzo formato di lettere e numeri, è come una targa di macchina, no? È unico, non si può modificare, in teoria. Invece hanno inventato un programma che ti altera l'indirizzo di rete, che dovrebbe essere immutabile, e tu praticamente entri con l'indirizzo di rete mascherato, diverso dal tuo. E quindi riesci a fare la franca anche lì, capito? Tanto sono avvicinati, sono. Figurati, tu te le inventano. Andiamo a fare qualche cosa, entrare... Abbiate di avere cose, i programmi media si prende qualche giorno, con qualche schedina, se ne infili e ti guardi i programmi gratis. Sì, guarda, quelle cagate che fanno vedere, poi il grande fratello ultimo era, io lo so, lo guardo sotto, perché sono già parato. Sembra tutto preparato, chissà perché, sembra che siamo d'accordo in modo da... cominciare per addirittura ad alzare l'odio, farsi le storie l'uno con l'altro per alzare l'odio, è tutto un po', diventa un po' tutta una paratura per il problema per te, se già non lo era prima, eh? Beh, se fai il coso per i tuoi vini per forza ti dico di fare come vogliono loro, capito? Se te l'ho fatto con nei programmi della prima, ogni volta che entravo a Piossi ti diceva che andava di gratis, invece poi aveva pagato 100 euro la giornata. Questa volta ci siamo traditi, praticamente un incidente, ci doveva essere una sorpresa al grande fratello. A uno di quei concorrenti che dice ma qual è quella cosa, la sorpresa, e poi si è bloccato subito, capito? Che cazzo, non è così. Quando facevo guardare il telefonino, se ti ricordi bene, addirittura per risolvere i famosi, se hai visto il telefonino, il cellulare, quello ce l'aveva Corona. Corona, gabbia. Prima di è uscito, non è in gabbia più Corona adesso. Adesso deve fare il bravo bambino, deve rimanere cazzo in casa. Una persona così guata non l'ho mai vista in vita mia, cazzo. Cesso. Come un bambino di 10 anni lo fanno trattarlo, cazzo. Deve fare la brava, deve andare a fare aiutare agli altri, deve fare poco di cosa. Purtroppo lui è uno che fa delle cose, continua a fare delle cose che sa che lo porteranno alla galera. Tipo affitta la macchina, un noleggio e non la vuole restituire, cioè lui ritiene che non la debba restituire, cioè o non è il campo giusto di questa o non lo so, lo fa per spacconare, per farsi vedere, non lo so. Ciao, ci vediamo. Non è che mi potresti mandare il numero di Falchetto, Antone, anche tramite messaggio. Sì, Massimiliano, non c'è il numero di Falchetto, io sono stato mandato anche al telefono, non ce l'ho per niente il numero di Falchetto, ho detto. Falchetto, dove ti senti la barattina di mattina presto, se tu entri verso le 5 e 6, aspetta un attimo, lo trovi subito, perché entra quell'ora lui. Un volume massimo 3-4 ore, non di più. E secondo te mi invece le 4 mandarmi entra la baracchino, non vedo come la compiscente. Sì, va bene, ma per dirtelo, perché se no la sera, quando esce verso le 6, 6:30, lo becchi. Ma cosa vuoi che dica? Io adesso, a meno che, va bene, niente, è inutile, se tu non frequenta quel banone, vedi tu. Magari lì c'è, conosce il tuo padre, magari c'è anche il numero di telefono suo, non è strano, boh. Ehi, è positivo, va bene, ti ringrazio, buonanotte e buona continuazione, ciao. Sì, ma signora, di niente, qua, se avrei potuto andare anche l'altro, non c'era stato problema, non ce l'ho neanche io, figurati. Mi come faccio fare il numero di Falchetto, me l'ho memorizzato il telefono, almeno qualche volta, se magari se mi serve, se ne ho messo qualche cosa di telefono così usciamo, non ce l'ho. Adesso con l'attina se lo sento, io magari che a mattino, domani sera, glielo dico che lo sto cercando, e così magari vieni lì al bar e lo troverai lì. Avanti, Marco. Certo, per sentire di cosa si fa, non so, che me la sia fatta addosso. Sì, caldo c'è. Io sono tutta la sera dove invece. Io non ho questo dolore, la gamba al petto è dietro, sono qui a Milauli, mi stavo sentendo male a casa. Potevo prendere l'audi prima. Tipo febbre lì, perché di solito io sto sempre in mutande in casa e magliettina. Forse ho preso qualche po' di vento spostandomi da una camera all'altra. E poi ho dovuto prendermi in auri. E adesso sono in camera lì, seduto. Quando non è tenuto tanto, insomma, perché c'è caldo qua. Non c'è neanche un filo di vento oggi. Stasera perlomeno. questo è il capo, io sono vestito anche i pantaloni, la polo, eccetera. No, va, eccetera. Qua non fa l'aria, ma non si muove l'aria proprio. Vabbè, poi il capo risponde. Comunque da notte ho passato una notte di casa, perché c'avevo questa cervicale che mi dava fastidio, c'avevo questa tensione del collo, no? Mi sono girato almeno 50 volte nel letto, lo sai? C'è anche la cervicale, fatto che poi appena parlo di questo vento di maestrale, che c'è cosa ti crepa subito. Il fatto che io vado dall'ospino a farmi la spesa, e quindi entro, poi sono 35 gradi, entro dentro ce ne sono 7-8, capito, vicino alla dove ci sono i latticini e cose del genere, ogni giorno che passi qua, te lo faccio vedere. E la paura è freddo che ci dà dentro, guarda, non ho mai visto una cosa del genere, ma quindi te la so più così, ma è un tabinetto, ma ti correttava, grazie. Adesso non vai, l'ho abbassato il corso, perché si sono lamentati tutti. Adesso in questo cazzo di ospizia sono preso compito di mettere di questa maletta. Il collezionatore dell'aria, quando entra all'ingresso si sta bene, quando vai verso dove sono i latticini, che ci sono i frigoriferi, un freddo cazzo che ti fa chiamare, ti senti strano, ti senti, capito? Cosa così, il corpo in pratica non si abitua allo stato repentino di... Da 35 meno 6-7 gradi normali, capito? Non si abitua così facilmente. No, qua è troppo alto, non hanno il sensore della misura, qui io dentro va bene, com'è che qui sono fuori? Ne esco anche per il caso. Questa è una volta, la massa, ma già bene le tecniche, no? Era un prezzo tale, al settore frigo soprattutto che è venuto una contrazione al muscolo della coscia destra, è venuto questo dolore che praticamente è da urlare, non riusciva nemmeno a urlare quando lo facevamo. L'ho portata a pronto soccorso e quando a servirla, due ore dopo gli era già passato qua. Dice che dovrebbe chiamare questa cosa, ma era Gia Parecchisto, una cosa del genere, ma proprio sembra quasi che ti stiano prendendo il muscolo. Sì, a me mi sono toccata la gente delle gambe, la tavola tra le cosce, sono stata a casa in crampi, c'aveva, in crampi in cosce c'aveva, non riuscivo a muovermi, sono andato in bagno a canale, non riuscivo a piegarmi per andare a pulirmi il culo, figurati, e poi quando andavo a respirare nei fianchi me, dove sono le costole, dove intercostali da morire, e poi ho fatto più l'infiammazione. Siamo persone anziane. Io ho detto di essere persone anziane, no? La questione è che rischierebbero colpo morire così, capito? La cosa è come passare da 35 gradi dentro una cella frigorifera, ragazza. Se non ti abitui tutti i giorni sei morto, sì. Finché non abituato, diciamo il corpo si abitua a fare così, ma quando uno non è abituato, e ti piglia subito male. Una volta anche un cinese l'ha messo a mano, adesso vediamo, a me sembrava che ci fosse una sostanza estranea nell'anima, ho cominciato a tossire, ho cominciato a tossire, mi stavo piegando in due, una cosa strana, ho fatto a beba il condizionatore, il fitoide, il freon, non so cosa si metta, sembrava quello spray al peperoncino, mi ha preso. Che io ce l'ho presente, non è freno, stavo guardando su un altro tipo di spray, cioè di liquido, non so come si chiama. C'è un nome strano, c'è. Mi ha costato poco, Giacca, al chilo. No, e ogni quanto si ricarica? Sì, se non parlo si ricarica ogni 4-5 anni, dipende dal coso. ha cominciato a levare, che si fa la pompa del vuoto, già tiene, se invece la pompa del vuoto non è fatta, allora qualche perdita ce n'è sempre i gas, sì. Perché lo sai che è come il frigorifero, il liquido fa sempre lo stesso giro, si raffredda e si scalda e si raffredda, e a meno che non ci sono che perdita, capito? Ricordiamo perché c'è detto il frigo da noi, un vecchio frigo, è in cucina, ma c'è un po' sentito, sente questo odore strano. Dove è andata sotto il gas di corso, lui ci aveva scritto qualche punto in marzo e ce l'abbiamo buttato perché non ne valeva la pena, era anziano, per il mio basso, frigo. Io ne avevo dato uno di frigo a casa, ma era di casa mia, non ne frega passare. Perché con i ghiacci, quei frigo piccolini, mi c'era presenti. Quindi i ghiacci ho potuto usare il coltello, cazzo, coltello e la mazzetta piano piano, finché non ho inteso, sbagliato, so. Ma poco ci ho buttato, mi sono trovato l'altro. E l'altro ho lasciato così com'era, l'avevo portato qui e poi dopo l'ho regalato. Noi l'avevamo ripreso da Oshan. L'altro era, non mi ricordo nemmeno la marca dell'altro. Forse un Ocean. Io tipo quello grande che c'è non l'avevo neanche pagato. Quando abitavo in questo abito di lavoro c'erano delle ragazze brasiliane, hanno comprato un frigo, hanno preso e l'hanno lasciato lì. Io quasi ho fatto, ho giubilato un vivo e c'era salito le brasiliane. Le brasiliane mi sono sceso il loro, che era nuovo l'uovo. Le brasiliane? Sì, brasiliane. Diciamo che quando abitavano in Mansarda, io la prendo di sotto e loro la prendo di sopra. E allora hanno comprato un frigo, dopo l'uovo l'uovo. Sono rimasto quasi 2 anni, 2 o 3 anni, poi hanno lasciato la casa e prima di lasciare la casa era dato da voi il frigo, ho detto dammelo. Allora c'è Fauci su, c'è il tubo, e allora ce la pagava in casa, detto, perché non l'ho pagato, lasciagli un frigo nuovo. Allora gli ho lasciato il mio, c'è solito il mio vecchio sopra, io mi sono sceso il nuovo giù, capito? E ho usato quel frigo, che non ancora più funzionava, il frigo c'erano già 5-6 anni. Questo frigo funziona benissimo, è alto 1,20 m. Brasiliano, buono il brasiliano è stesso. Il brasiliano è ragazze di 20 anni, 25 anni, ma buone. Ma che lavoro facevano? Che lavoro facevano? Le ragazze facevano. Fino all'angolo c'è la polizia, poi diciamo via del Corretore, come diciamo via del Corretore, gira con l'angolo la polizia, ecco perché non c'era nessuno. E beh, vuol dire che c'erano giro di linee del Corretore, se ha preso niente di negra e cose del genere. Cioè, è pieno la sassa di se tutto il giro, se sono il vecchio, è pieno di brasiliane, spagnole che battono. Ma sta passando della Marmola vicino a cosa? Come si dice? Via delle Muraglie. È tutto pieno, Petrattori, vicino a Petrattori, tutto pieno di quell'area che battono. C'è un'inflazione anche per questo. Poi io ho detto la mia diretta. E ho detto quando ci sono i mariti non ci sono le mogli. E se vado la fila a farlo, e lui ti parla a fare giù con giù, tu li vedi cazzo alle 5, 6 del mattino, che c'erano già l'appuntamento per andare a fare giù con giù. Giù con giù, ma anche vicino di adesso ci sono, dopo sembra che ti trombino però, con piccole incorporature. Già sono abituato a quelle, da quando c'erano 17 anni a usare l'uccello e preoccuparsi, 17 anni sono già sulle girate quelle, infatti se non ti sono tutti sposati, tutti i 18 anni sono tutti sposati questi cinesi. Beh, sempre a mezzanotte. Sì, vabbè, c'era piano piano, ho pensato che ti porti a dormire due e poi te lo prendi sonno. Tanto vuoi che viene dare a rovare ogni mattina. Ma non è per quello che non dorme, è questo collo che mi sta dando fastidio da un po' di giorni. È una cosa incredibile, guarda. Un lavo mi prendi che ti passa un po' di dolore. E poi un lavo magari ti passa del dolore, come ho fatto io oggi. Ho preso un lavo lì. Il dolore mi è passato, adesso domani mi pigliava pastiglia per i dolori reumatici e piglio due e poi sono a posto, poi non sento più niente. Non è forte da prendere nessun antibiotico, diciamo è più fastidioso, il fastidio continua, e poi quando mi tira per cambiare il suo cuscino. Io non dico a me, ti senti il collo dire, movente, rigido, e poi ti gira un fianco, comincia la nausea, per 20, e girati la testa, come se fossi cotto senza bere. C'è, parlare in medicina 27 siamo qui, quando eravamo giovani in medicina non è parlato. Quando eri giovane parlavo di paccioccio, della cazzo di medicina. Tanto non ci tira nemmeno più. Sì, e mi tira ancora, ma grazie a Dio. E ricordati che mi ricordo che tu mi piaccio che quando eri giovane, perché un bel ragazzo quando arrivano all'età di 40 anni e cominciano a cercare maschi. Non è come prima, che prima si vogliono desiderare. Adesso è diversa la cosa. Stavo cercando tutte di trovare casa, di trovarsi un uomo che li voglia bene, che non si è per tutta la vita, capito? Quello temo. Ci sono tante separate dell'età mia, su 40, buone perché sono buone, però cercano sempre di arpionare il nuovo collo, capito? Poi come sanno che hai una cosa di proprietà? Ne parliamo, io come sento aria di quando dicono e se vogliamo costruire qualcosa insieme comincio a battere, a tagliare la corda. Sì, è un grido, ma tu stai dicendo che tu mi piace che no, perché prima quando c'avevi 20 anni, magari quando avevi 18 o 20 anni è stato andare a e se ne fregava, no, tu facevi l'avventura e basta, invece adesso e tu mi pare che stavo cercando alloggio, sai quante le conosco di quelle lì, ma bombe, certo che sto cercando alloggio. Io purtroppo sono una delle idee particolari, io sono un po' contrario al matrimonio per cose che ho visto, sentito, tutti quelli che conoscevo erano giovani, sposavano giovani, insomma, tutti separati, a pagare violenza la morte, e poi per esperienze mie personali, se uno vuole compagnia, deve convivere anche, però anche convivere adesso, se c'è la moglie deve di dare qualcosa, se non fa, ci hanno ciulati, hanno il massimo peggio che mai. Sì, non è detto, io sono già 16 anni che convivo, figurati, e vado sempre d'accordo, anche se faccio finta di non essere neanche fidanzato, figurati, quindi vai molto meglio, invece quando cominci a sposarti, cominci a attendere, devi darmi lo stipendio, devo tenere i bambini, non volo, io tu dimmi, tu vai a lavoro e rimango a casa, cazzo che la voglio, no. Se si lavora assieme, si divide i profitti e anche ciò che va per le bollette e cose del genere. Sono così per andare d'accordo, non ti bisticcerai mai. Più altro, finché sei sposato con me, finché va tutto bene, in poche parole, è ok. Però se sorge un problema, se conosci un tipo nuovo, sempre così va a finire, no? Non sempre, ma se va a finire così il casino, poi un'altra cosa, ormai il matrimonio non è più sacro, ormai è un puttanaio, si sposano e si mollano e si risposano come niente, come se fosse un blocco, no? Ma nonostante vari giuramenti eccetera eccetera. Così è proprio uno schifo. Era meglio prima allora. Sì, ma forse guadagnano tutti, fu tutti quanti. E forse che si sposano, si mollano, si sposano, si mollano, ormai che si vedono più che cosa non vedi, cazzo. E non si può che lo fanno tutti così. Capito? C'è quello che ammazza la moglie, che si può ammazza il marito perché cazzo vuole l'eredità, e da quando c'è la televisione che fanno i film così, di tutto di più sono veri. Ogni giorno c'è uno, c'è un morto. C'è quello che ammazza la moglie, o l'altro che ammazza il marito, quello che si frega i soldi del... e se ne fugge. C'è quello che va, che è sposato, che forse abbia una moglie sogna anche 3 o 4, figurati, senza neanche saperlo. Sì, sì, cioè ogni volta c'è uno che ammazza la moglie, la ragazza, e deve essere che con i cellulari si stanno bruciando il cervello delle persone. O quell'altro animale che ha buttato un po' il bambino nelle tegole, dove è? La gente sta facendo. Che te devo dire? Sì, uno schifo se sta diventando. Ogni giorno ce n'è uno. Se tu guardi la televisione, ce n'è la televisione, non dico ne uno. O morto, o quel carabiniere che ha ammazzato un amico, cazzo, in caserma. C'è quello che poi è geloso della moglie perché il bisogno di un amico gliene frega la moglie, no? Sì, lo so, mi è diventato tutto uno coso, ma chissà come finiremo fra 20 anni o 30, se adesso è così, no? E fra 50, vabbè che non ci sarò più. Certo, c'è quello che a forse avere i soldi di ventagliere. Bello, bello, quello è bello, vedi? Almeno se non godi da davanti, godi da dietro. Allora, come dice che Paolo, ma si fa due figli. Dopo che ha fatto i soldi, beh, adesso non piace più la pioggia, la voglio il manganello. Fate l'immagine. Aveva niente, c'era gente strana, cazzo. Poi è diventato tutto una promiscuità, adesso va di moda essere gay. Boh, io sono un po' all'antica, però non tanto per certe cose, per certo sono anche all'antica. Cioè, credevo di essere dovuto aperto io nel liceo tanti anni fa, però non sono così accomodante, capito? Boh, Buda, adesso stiamo cominciando a esaurire gli argomenti, io vado a mangiare. Ci sentiamo alle prossime, va? Sì, ciao Marco, ci sentiamo domani al limite. Sarebbe bene con voi, buonanotte con tutti.